Sessione scorsa l'ho rinominata I ladri di tombe colpiscono ancora perché ormai, ragazzi, saccheggiamo tutte le persone morte di questo mondo. Perfetto, è il 23 ottobre 1622, decidiamo di salire il monte alla scoperta di questo santuario bellissimo di Arva, ma non lo sappiamo, non siamo sicuri. Incontriamo, in ordine, una scimmia drogata a cui roviniamo la vita, un cervero che... Davvero, me l'ho scordato. Un cervero Ma che tutte le cose dice successe. L'aveva rimossa questo. wow, e un cervero che difende il suo territorio e la tomba di Pseudocelso più avanti. Veniamo a scoprire che l'anima è un errore, un buco nel tessuto della creazione quando il primo umano ha creato la fede. Le centrali sono state create per evitare la fine del mondo e poi probabilmente ho scritto male un punto, che è il fattore degli avatar che facevano tipo i patti con gli umani, allora il dio doveva fare la magia nuova. Non penso di averla scritta bene. No, Andiamo avanti. erano gli dèi che facevano i patti con gli umani. Ok, perfetto. E infatti, se vado alla pagina successiva, io ho scritto: gli dèi facevano i patti con gli umani. E... Ok, fatto. Tutte queste persone hanno votato per rendere la magia democratica e disponibile a tutti per evitare appunto un fattore di hubris. Porca troia. Grazie. Niente, ci lieto. È riuscito a mangiare l'anima di Pseudocelso e ci siamo svegliati da questa. Siamo usciti da questa dimensione chiamata anche Limbo. Le side note ve le mando su Discord perché secondo me sono fanni. Aggiungo soltanto che la sessione è finita nel momento in cui è scaduto il limbo. Quindi voi vi ritrovate fuori esattamente nella posizione in cui eravate prima. E niente. Sembra che sia passato un secondo. Invece voi avete visto qualche minuto di conversazione con Pseudocels. Ma era con noi anche Era con voi anche Cici che è rimasta in Cici. silenzio, sbigottita dalla situazione. Ecco le mie note. Beh, Alice, ho una domanda. Noi sappiamo che Lieto ha mangiato l'anima di Pseudocelso? Stava mozzicando le ossa. Avete sgamato Lieto che stava Mifera a tirando un morso fianco. alle ossa. Quello l'avete sgamato. Esatto. Oddio, la cam, nessuno mi dice la mia cam. Lieto guarda, sì, Adone guarda Lieto e sospira con delusione e dice: ovviamente. A me penso parte un fusibile nel cervello, ti guarda e fa: gli hai appena dato ragione, Lieto! È letteralmente quello che si cercava di evitare! Gli hai appena dato ragione per le cose che ha fatto! Lieto, lieto, sei fortunato che questa musica mi mette di buon umore. Dice Nibel lì, anche lui sente la musica, le Perfetto, mosse. cambio, siamo subito la musica. Appena Lieto mette a terra l'osso che stava masticando, sotto lo sguardo giudicante dei suoi compagni, l'attarite reagisce all'utilizzo di magia. Il glifo ambrato ribolle, rimanendo confinato nella pietra, e avvertite una forma aliena di energia. L'avvertite tutti. Che non riuscite a qualificare come magia, per questo l'avvertite tutti. Un fluido nero cola copiosamente dalla pietra sullo scheletro, formando il simulacro di un corpo umano, nero e semitrasparente. Le ossa si riparano miracolosamente, mentre riparano, nel senso si aggiustano, si corazzano, si guariscono. Miracolosamente, mentre vengono alterate e diventano d'acciaio lucidissimo. Avvertite in lontananza una risata sguaiata, una specie di piccolo anfittero con le ali d'acciaio e il corpo nero, manifestato dal nulla, vi osserva dall'alto del dislivello scavato con un ghigno sul volto. Questa distrazione dal tempo che serve alla creatura nella tomba insacrata di alzarsi in piedi, rivelando di superare facilmente i 3 metri. Il suo scheletro d'acciaio è ben visibile sotto lo strato nero che costituisce la sua pelle e tutto il resto del suo corpo. Le sue intenzioni sono altrettanto chiare. E abbiamo la nuova scena. Porca troia, Bruno. Carmori. C'è Scarmori. Abbiamo fatto l'upgrade dello Bruno dopo un anno e mezzo. Scarmori. Scusate. Bellissima, no. Cici, io sono totalmente sidetracked by Blue. So di aver cucinato con questa immagine. Sì. Io e Lieto ero tipo dentro il buco ancora, perché lo stavo io ho letto calmente nel buco. Sì, siete... Vabbè, andava bene dove vi ho messi. Ok. Torni indietro. E vi chiedo di rollare priorità, che sarebbe un di 20. Io ne rollo due, uno per ognuno dei personaggi che vedete in campo. Non si aggiunge niente, vero? Assolutamente no. Ma dopo la scheda, vero? Cioè, a meno che voi non abbiate una classe che vi dia delle robe, ma non credo che nessuno ce l'abbia. No, nessuno mi sa che ce l'ha. E... fatemi un secondo, che li devo mettere tutti. Ovviamente ci vorrà un pochino. Però rollarlo prima era da stronzi. Allora, Sirio ha fatto 11. Ossa ha fatto 17. 17, sì. Non me lo fa cambiare. Fai tu. Lieto ha fatto... 4. E Miff ha fatto... 12. Manca Cici, scusate, è vero? Manca Cici. Ha fatto 2. No, Cici! 2, meno di me. Wow. E l'unica cosa che succede prima che inizi il combattimento è che la creatura che posso descrivervi, in realtà, sì, è uno spiritello, sembra un anfittero, quindi tipo un drago che ha solo le ali, non ha le zampe, e le ali sono fatte di acciaio, sono con tante piume d'acciaio, il resto del corpo è fatto di questa sostanza nera che voi non conoscete. Dove cazzo è? E con la sua voce acuta dice: Yomba Jin, ah? Pangenendosi. Lo cannibal. Hanno chiaramente intenzione di picchiarvi, quantomeno. Io, scusate, ho una domanda velocissima. Bianchi, che tu ti ricordi? Io ho già usato il mio intervento di oggi. No, scorsa sessione. Puoi usarlo per la priorità? Ma no, no. Era... No, è perché li sto segnando le mie risorse. Ho usato un rewind? No, oggi no. Allora ne ho 2 su 2. Sì, oddio. Era quello di ieri. Io faccio panic over power. Svandasa. Non lo so, e... il glifo? Bella domanda, non lo so, è troppo tardi, non me l'ho dichiarato. Non succede niente, vero? Un attimo. Oh shit, here we go again. Oh shit, here we go again. Overpower ha effetto su di te, quindi non sembra reagire. Ok. Che abbia effetto solo su di me, ora vedremo. Perché sto per tirare un pugno. E la vedete che è qua. Cioè il tizio c'ha un piede sopra la tarite e uno... sopra il bordo della tomba. Ok, scusatemi, l'icona che c'è sul buco della tomba, quella bianca e nera, è l'obelisco o è la creatura? Quello 2x2 è la creatura. Dovresti vedere anche la barra della vita. Sì, ma non capivo io. Okay. Allora, invece di attaccare, vorrei usare la mia azione per... lanciare fuori Lieto dal buco per farlo uscire. Penso. Rolla un D4. Sì. Non ti faccio rollare per la forza e non ha senso. Lo puoi lanciare fino a 3 metri indietro. Ok. Dove preferiresti andare? Non c'è una preferenza in questo momento. Tra Miff e Cici per poterti avvicinare prima, oppure qua per evitare che siamo tutti clusterati insieme, per evitare la propria qua. Vai. Dove è pingato? Non vedo. Qui. Ok, allora lo lancio lì. Hai ancora un'azione. Ho usato l'azione extra per overpower. Sì. Quindi cosa posso fare? Vediamo un po'. In realtà messo così non puoi attaccarlo perché è in diagonale, quindi la distanza è 1. Pugni hanno distanza 0, deve essergli proprio a contatto. Ok, allora cerco di uscire fuori. Io avevo scavato, praticamente ero di fianco al monolite, avevo scavato fino alla base, quindi avrei scavato tipo di 3 metri circa. Quindi mi arrampico per cercare di salire su. Sì, non ti faccio rollare perché dovresti proprio fare uno ed è da stronzi, farti rollare. Sì. E sei fuori, puoi spostarti dove vuoi. Conta che hai mosso uno di movimento, cioè hai speso uno di movimento per questa cosa. Sì. Quindi 3 metri forse 2. Quanto mi manca di movimento? Fammi vedere. Dovresti avere 5 in totale. Ok, quindi ho speso 2, hai detto. Sì. Quindi mancherebbero 3. Vorrei mettermi nella posizione di Mif, tipo, e spingerla per non farla stare davanti alla creatura. Mi piace. Tipo qua. Grazie. Sì, te lo concedo. E se non ho nient'altro da fare... Non posso usare Sprinter perché è un'azione extra pure quello, giusto? Sì. Se non hai qualcosa che allora... regala altre azioni extra, hai finito. Puoi spendere l'azione base per effettuare un attacco, no, Iron Hands, no, vabbè, finiamo qua. Ok, il prossimo nella mia lista è proprio il grande coso. Il grande coso, avendo Nibel davanti, che chiaramente gli sembra un pericolo, ti attacca con un pugno. Dammi un attimo. 14. Mi becca, se ho 13 io di evitare. Ok. Dubito che tu abbia resistenza a oscurità. Non ho resistenza a niente. Perfetto. Ti infligge 3 danni da oscurità. Quindi 3 danni. E vedi che il pugno ti fa sanguinare, cioè nonostante sia un colpo, il fatto che sia danno d'oscurità vuol dire che ti brucia la pelle in qualche modo. E una parte di questa pelle che si stacca viene trasformata in questa sostanza nera che lo ricopre e la ingloba. Ok. E sembra cresciuto leggerissimamente, cioè sembra che questa cosa l'abbia gonfiato. Sì. La Nibel esce il sangue, che non si capisce se è nero per l'attacco, sì, o è nero perché effettivamente è in cancrena quello che c'ha già di suo. Come seconda azione, il mio coso si muove di... si muove qua. E come azione extra non posso fare nulla, quindi il suo turno è finito. Tocca a Mif. Tocca a Mif. Oh mio Dio. Non lo so, cioè, si può ipotizzare che facendo una magia d'aria venga risucchiata? Cioè... Sicuramente prima la pietra era immune. Nibel ti ha raccontato che reagisce male con la magia, e quando Lieto ha provato a usare una forza magica ha effettivamente... Ha fatto il meccanismo, esatto, cioè quindi... Però hai visto che Nibel ha overpower attivo e non ha avuto conseguenze. Su di te, però, cioè, mi si chiede, lei ha tutte magie d'aria. Sì. Quindi la cosa è... lo potenzio? Succede qualcosa, un'esplosione, si sovraccarica, who fucking knows. Vabbè, e... Nibel spostandoti ti dice, stai lontana, concentrati sul coso volante. E infatti ci sto pensando anche io. E... in realtà ho l'orb, quindi volendo posso spendere uno di fatica per farmi 4 cariche dell'orb. E agitata 5 e ha un'area di 3x3. Quindi io volendo ci arrivo anche da lì. Sì, sì, sì. Anche se è in alto, per intenderci. Sì, sì, sì, sì. Ok, e allora gli metto l'orb. Che gettata 3x3 significa che sì, lo è grande così. E niente, glielo lancio. Devi e fa danno rollare subito? Per attaccare. Devo rollare per attaccare. È un D10, vero? Sì. Dopo il sistema di... Credo che... 8. È sì, sì, sì, sì, attacca... 8. Devi darmi un secondo, che avendo due certo. schede oggi sarà un pochino più clunky. Quanto hai di bonus precisione? Hai più 4. Quindi hai fatto un totale di 12. Lo prendo. Ah, ok. Ok, lo prendo. Va bene. Quindi adesso Vainglory è un di 4 danni sacri. Sacri. Quindi rollo un di 4. 3. 3 danni, dammi solo un secondo. Da sacro, esatto. Sì, per quello stavo guardando. Lo danneggi. È difficile capire what's going on, nel senso non ha la biologia di un animale. Per sì. cui... la parte oscura, la parte nera che lo copre, prima era uniforme, dopo che l'hai colpito con questa cosa diventa tutta mossa, come un fiume in piena. Okay. Capire se questo vuol dire che sta male o bene, tantissimi auguri. E... allora, tecnicamente ho fatto... azione base, azione extra. Ok, ho un'altra azione, quindi. Sì, un'altra azione base. Ok, per l'azione base posso tipo capire se il costrutto è appunto simile agli animali nadiri, cose di questo genere? Rolla, cosa facciamo? Arcano? Non è arcano, è più natura. Natura, ok. 7 più, adesso guardo... 4. 11. Fisicamente è identico, cioè... facci una foto, mettile una di fianco all'altro, è la stessa identica cosa. Non hai mai visto un nadiro nudo, giusto? Mai, sì, mai. Benissimo. Se i rinoceronti nadiri stanno ai rinoceronti normali come hai visto, questo potrebbe essere un umano nadiro, però è una tua congettura. Okay. Dal punto di vista dell'energia, quindi roba magica eccetera, weird fucking shit, cioè non hai mai visto una roba del genere, cioè non assomiglia minimamente al rinoceronte dal punto di vista del modo in cui utilizza la magia. Il rinoceronte, okay. Se ti ricordi, era un rinoceronte strano, vero? Questo spara la magia. Ok, io direi che hai finito il turno. Sì, sì, sì. Perfetto. Adone. Ok, allora, una domanda, il mio coniglio adesso è un orso? Il tuo coniglio adesso è un cinghiale. È quello, okay. Di mezzo, è il penultimo. Ce ne sono 4. Base, gatto... No, perché l'avevo lanciato potenziato, sì, sì, ed sì. Era già... È ok, adesso per, è un cinghiale. Perché è quello sopra, quello che fai di solito. Sì, sì, ok. Ok, ora, scusate che mi sono un po' distratto anche per robo di famiglia. Sì. Qual è il robo che vola che ha detto di attaccare... Carmory. Questo qua è... Una... Carmory, ok. Scarmory. Literally Scarmory. Ma da dov'è che è arrivato lui? Perché la roba non l'avete nera... visto. Mentre eravate distratti, è comparso e ha iniziato a parlare una lingua bizzarra. Perfetto. Bizzarra. Vaga. Every talk. Quanto siamo distanti dalla civiltà? Dalla civiltà? Dovrei riprendere la mappa. Un pochino, cioè da un po' che non vediamo gente o segni di vita, corretto? 9, 10. Sì, sono almeno 12 km, 15 km. Quanto è visibile un icone di Dio? Meno di 100 metri. Non succederà nulla di male. Allora, aspetta che mi carico un attimo. Allora. Allora, per non sapere né leggere né scrivere, parto con Future Glimpse. Benissimo, guadagni un punto esperienza e hai le stack. Segno io E... domanda, ma abbiamo la cosa già attiva che in base a quanto giallo abbiamo guadagniamo più esperienza o vuoi fare la prossima volta? Ce l'abbiamo attiva? In base al viola, sì sì sì. Ok, quindi io guadagno 1 più 3? Sì. Quindi un totale di 4. Ah, sì. Aspetta, si applica su tutto? Si applica sulle abilità e sulle... cioè sulle magie e sugli attacchi. Tu guadagni... quindi io su tuergia, tuergia che ho 5, adesso vado a 9 perché guadagno 4. Boh, perfetto. Ok, bene. L'arma magica, ovviamente. Sì, sì, infatti ho... ok. No, è un'azione extra, il cuore di Dio, porca troia! Puoi usare l'azione base come azioni extra. Ok. Non il contrario, chiaramente. Certo. Magari spostati dal tizio e poi lancia gli unicore di Dio. Devo comunque usare i manapenni io per i cuore di Dio, no? No, puoi usare i dadi vita. Infatti, i dadi vita, sì sì, infatti. Dadi sangue, scusa. Andiamo all in? No, dai. Uso... facciamo che uso... tanto la posso ricastare finché c'ho dadi vita. Sì. Non mi abbassa la vita massima... No. Allora, io direi che casto Icore di Dio con 2 di 4, per cominciare. E lo fai con un di 4 solo. Ok, con uno. Perché è uno per tipo, giusto? Sì, esattamente. Perfetto. Quindi okay. Ne hai 1, 2, 3, ancora 4 da 4, 2 da 6, 1 da 10. Dammi solo un secondo, devo rollare io, vero? Sì, aspetta 3. Che... sì. You... 6, 9, 9 più 6, 15 col cazzo. Ah. No, non ci credo. Guardami negli occhi, Vialis. Guardami negli occhi. Guardami negli occhi. Puoi usare Future Glimpse? Lo puoi usare per Star Wars? È vero, posso usare Future Glimpse? No, ma te lo faccio fare perché sono gentile. Oh, yay. Io che ricevo baby treatment sempre. Sì, te lo concedo, ma li faccio. Ok, quindi le due cariche che ho. Sì. Ok, ci sta. Pianic! Ho le lacrime. Ti tieni le cariche di Future Glimpse, cioè ti tieni una carica di Future Glimpse. Va benissimo. Ho rollato 19 sul D10. No, no, no, no, no, no, no. Ha detto che però alziamo le mani. Vabbè. Funziona tutto, eh. Cioè, voi vedete che la vuoi descrivere te, la descrivo io come preferisci. Descrivi tu. Voi vedete che il sangue sul braccio di Adone diventa blu, quindi vedete attraverso il suo braccio le vene che diventano di un blu fosforescente, e spara un fulmine verso la creatura fatta di materiali sconosciuti a voi, e la creatura si sposta. Un albero che... sì, sì, sì, hai distrutto, hai incenerito. Non ci sono alberi, hai incenerito le pietre dietro. Le pietre, è vero, è vero. Aspetta, faccio anche il disegno. Adone guarda direttamente nella camera così. Aspetta, Adone, aspetta. Stai guardando. Niente, lasciate stare. Ok, bene. Delusione profondissima, interminabile di Adone. Però sto... allora, aspetta, dammi un attimo a vedere. Anzi, io ho guadagnato 2 di questo colore. Movement, vero? Com'è? Wow. Bellissimo. No, niente, stavo guardando una cosa. E mi posso spostare? Sì. Hai 4. Ho credo. Anche più. Ah, sì, hai 4. Ho più 2. Certo. Sì, sì, quindi ho 6. Sì, sì, sì. Io non voglio stare vicino a quella roba lì. Adesso. Ma sì, dai, mi sposto più in là che non dovrebbe succedere nulla di male. A nord. Sì, mi sposto di lì e... vai. Opete. E a questo punto mando il mio coniglio a morire. Sì, è il turno del coniglio. Sì. Shum. Che non posso selezionare, però. Mi spiace, dimmi dove vuoi andare. Facciamo che lo metto qua, tanto si può muovere di fianco. E? Vai, lo puoi muovere ora. Sì. Ah, e faccio... Beh, sì, faccio carica. No, anzi. Sì, faccio carica. Ok, quindi su faccio quale dei due, scusa, non ho capito dove vuoi muovere? E sul Pokémon, scusatemi. Okay. Pam, e gli faccio un D8 danni da impatto. E poi mi devi rollare per colpire, un D10 per colpire. Certo. Credo abbia più 4. Non ce la faccio. 5 lo missi, però gli abbassi di 1 l'evasione. Allora ragazzi, però io vi giuro che non ho mai rollato così tanto male quanto Adore fa sempre tiri di merda. Stavolta hai battuto ogni record. Ma veramente? È da literally, sì. Sì, cioè non poteva letteralmente andare peggio. E tocca alla creatura Nadira, che guardando Adone dice: Oni, Jaxi già, Zege uoma. Si capisce che cazzo stai dicendo sta cosa. È toscano. Vabbè. Vai, quanto ha di evasione il coniglio? Te lo dico subito, un secondo. Sì, sì. Aspetta, 5 più livello, quindi siamo livello 6, c'ha un... Il livello del tuo coniglio è il tuo giallo più 1. È 4 il livello. Ok, quindi c'ha 9. Mi sto stampando. 11. Ma, domanda, okay. Nipel capisce sta creatura? Cioè, no, è considerabile un animale? Ok. Gli fa un danno. C'ha tipo 90 di vita, immagino. E la bestia c'ha 6 per livello. Quindi. Il primo livello è 4. Sì. Va a 23 di vita. Ok, te lo segni. Ah, oh, quello l'ho segnato sul token. Anche questa creatura fa sanguinare magicamente, perché non ha sangue il tuo coniglio. E questa energia che gli ha estratto va a fondersi sul suo corpo. Interessante. Ho fatto un'azione, poi ho un'azione di movimento, si chiama Traveler. Il coso attraversa il tuo coniglio, il tuo coniglio subisce un D4 danni da oscurità, non li puoi evitare. E immagina che si trasformi in un missile e gli passa attraverso e gli fa un altro danno, quindi not so bad. L'energia extra che aveva generato sparisce. E queste erano due azioni base. Ho un'azione extra. Aspettate che devo fare il range. Lieto è barely out. Tutte le entità vicine vengono colpite da questa energia che si assorbe al loro corpo. Ci sono solamente loro due vicini, quindi non vedete cosa fa sul corpo umano, ma su loro accresce la quantità di energia. Tocca a Lieto. E Antoia. La magia alla fine l'avete tirata in maniera abbastanza libertina, comunque, vedo. Parrebbe. Il cuore di Dio, sì, ha funzionato. Non è successo niente, quindi. Vabbè. E... Ma Lieto ha un piano. Lieto ha un piano. Lieto si mangia la perla di Umaru. Sì, che interessante. La tua pistola nella tua fondina fa... Yes! Non sembrano esserci effetti da parte dei... Ok, degli altri... Né delle pietre né di loro? No, di nessuno. Ok. Vabbè, spara uno dei due tipi. Abbiamo preferenze? Sono in fila. Quindi è quello davanti a me. Fammi aprire chi li ha. E puoi rollare un dado a 112 facce. 112? Sì. Bello. Wow. I knew you would love that. 73. Hai rollato occhi fotovoltaici. Bellissimo. Che succede? La tua pistola spara un laser. e colpisce 5 celle in linea retta. Li faccio entrambi? No. Bello. Una cella, un decimo di cella troppo lontano. Che palle. Sì, colpisci il primo e fai i danni convertiti in danni sacri. Ok, i danni dal pistola normale. Danni dal pistola, io ero molto già dimenticato. Un di 6, sì, no? Vale. Sì, un di 6 danni, yes. Wow. Un bellissimo danno sacro. Wow. Ora sto pensando se questa è una magia o no. Andiamo a leggere. Io ho buildato su tutte le cose che mi hai permesso di fare. Se è una magia, divertiti. È una magia ontica. Quindi quando il non ti ho fatto tirare per colpire per questo motivo qua. Succede qualcosa. La struttura, le ossa sembrano sotto pressione e la parte oscura si accresce ulteriormente. Fine dell'effetto. Hai usato un'azione, ne hai ancora un'azione base e un'azione extra. Dovresti ricaricare la pistola probabilmente. Cioè, devo ricaricare... Vabbè, ricarico la pistola. Ok, azione extra e consumi un mana penny per aggiungere un di 6 cariche. Yes. Puoi usare il primo mana penny mai creato. Non penso se li sia inculati lieto. Non penso che abbia preso lieto. Qualcuno non credo che nessuno li abbia presi so far. Lieto è di parere opposto. No. Non lo so. No, li aveva presi lieto perché era... No, forse la... Non ce li ha nell'inventario. No, perché credo. L'aveva detto alla fine. Esatto. L'aveva detto proprio in extremis alla fine sì. No, però lieto era quello che stava sul cadavere. Forse l'unica cosa che non ha lieto, mi sa, era la mana unit. Perché l'aveva data a Mif. Però la moneta c'era lui, mi sa. Allora me la scrivo la mana unit. No, il primo mana penny lo tengo. Primo mana penny. Di... anche la prima mana unit, secondo me, che è un po'... Vuoi usare il primo... il mana penny di questo posto o il mana penny di casa tua? I mana penny di casa mia. Ho una domanda. Importante. È stata prodotta prima la prima mana unit o prima il primo mana penny? Contemporaneamente, per quanto ne sapete. Cioè, stupido, non avete modo di... Vabbè. Dicevo... Un di 6... Ottica? 2? Devi... Allora, 2 vuol dire che il tuo danno base è un di 8 e non un di 6. E tiri 2 di 6 per ricaricare e prendi il risultato più alto. Quindi tira un altro di 6, se fai 6 prendi anzi 6. Ho fatto 6, vedi, hai 6 cariche della pistola. Te le sei... Bravo. Wow, ma perché questa colonna è di questo grigio? È perché quelli sono i dadi vita. Mettilo ancora a fianco. Ok. E... Boom, questa è l'azione base, azione extra e un'altra azione base. E guadagni a tua scelta 3 punti a ontica o 3 punti a... armi da fuoco. Micchia. Abbiamo cambiato le regole. Ora quando guadagnate punti maestria ne guadagnate pari a 1 più la vostra cultura. Ah, ok. Fatemi sembrava tipo... Aspetta, io mi devo segnare anche la roba di magia naturale. Hai dato 2 punti di esperienza? 3. 3. E allora vado a 5 di... dell'arma da fuoco. Dai. Perfetto. C'hai comunque l'ultima azione. Puoi fare tutto praticamente tranne sparare di nuovo. Eh sì, infatti, però il resto è tipo allontanarmi. Bleh. Fine. Eccoci qua. Tocca a Cici che con non troppo coraggio chiede: cosa devo fare? Cici, daghe. Daghe al tipo, quello. Daghe. Con cosa? No, non castare magie, chiaramente le stanno assorbendo. Scusami, non aveva la lancia? Sì, gli avevo dato, c'è ancora la mia lancia. Sì, che no. Ha detto, sono abbastanza pratica con questa cosa dopo averle dato la lancia. Quindi, a meno che non fosse una sex joke, che vada a lanciare. Allora, non ci arrivo, nel senso che è troppo lontana. Vabbè. Avvicinati, Cici. Che cazzo. E basta. Che non può fare altro. Ok. Toccare io nel turn order non vedo i turni dei personaggi, tra l'altro vedo solo quelli dei nemici, non so perché. Ah, io li vedo. È vero, anche io. Io vedo Cici, Skarmory e l'est che anch'io. Cioè, se volete li rimetto. Ma no, tanto noi siamo intercambiabili. Le impostazioni, c'è qualcosa. Vabbè, se li vedi tu li portate quello. Sì, infatti, Non so perché non ve li fa vedere, no? No, non anche perché weird. Tocca a me, hai detto, giusto? Sì, tocca a me. Di nuovo qui sotto. Uso Beast Power, effettuo due attacchi con gli artigli. Ok. Di 10, giusto? Sì. Sì, primo è 2 più... Madonna, cos'era? Più 8. 4 più 2. Più 6 più XP senza armi 2, quindi 6 più 8, quindi 10. Lo evita tondo. Ok. Abbassa l'evasione, sì, suppongo. Sì, sì. Quindi ora non puoi missare. Cioè, devi fare uno, scusa. 10. Puoi aggiungerne un altro se vuoi, se no entra. 1. Tiro danni di roll di 6. Non credo avere danno aggiuntivo. Fammi controllare, non mi ricorderò mai. Interattivo aumenta i danni. Sì, ok, di metà del tuo rosso, quindi è 5 danni. E poi tiro un calcio come ultimo attacco. Ok. E entra anche il calcio. Puoi tirare i danni. Roll di 6 più 2. 5 danni. E dovrei avere ancora l'azione bonus. Uso l'azione bonus per darmi sprinter, che mi aumenta l'evasione di 1. Mi metto un... non lo so. Questo qua. Questo toccherino qua. Ok. Il tuo pugno non gli ha fatto praticamente niente. Ok, calcio... che la danno la taglio. Il calcio gli ha fatto danno, ma leggermente, lievemente. Ok. Non hai capito, scusa, se a causa della tipologia di danno, perché la sua membrana sembra uniforme, quindi non sembra che colpirlo in modo diverso faccia cose diverse. Ok. Nibel può usare gli attacchi da taglio soltanto quando... usa gli artigli per il Beast Power, quindi cerca di fare 2 più 2, a prescindere che abbia senso o meno. Quindi c'è gli altri... i tagli non funzionano. Tocca la creazione alla sua... a te. È la sua deduzione questa. Tocca alla creature davanti a te. Mi rolli 2 di 10, Nibel? Certo, oppure 3 se vuoi. No, 2 bastano. 4 e 9. Hai presente che overpower ti aumenta fisico e mente? Non era agilità? Credo fisico e mente. Fisico e mente, sì. Qualcosa sta interagendo con overpower e ora ti senti molto più vicino alle divinità e molto più acculturato. Ok. Dal prossimo turno hai i bonus a fisicamente sono convertiti in bonus a dialettica e cultura. Ah. Tra l'altro, periodo dal prossimo turno, per questo erano ancora così. Guadagni 3 punti esperienza a i pugni, cioè gli attacchi senza armi. Abbiamo cambiato la regola, ora guadagnate punti pari a 1 più la vostra cultura. Ah, ok. Okay. Quindi adesso io guadagnerei 3. Ora guadagni 3, dal prossimo turno guadagni credo 5 se ti dà più 2. Ok, perfetto, quindi sono a 24. Quello di naturale l'ho usata, l'ho presa prima quando ho usato overpower. Okay, e allora mi sono anche messo la fatica, mi ero dimenticato di dirtelo, ma l'avevo già fatti. Perfetto. Possiamo andare al tizio grande grosso davanti a te, che sì. Ti tira un pugno. Mi piace. E che cazzo, dai, job. 15 sul dado. Sì, cioè, i mezzo li abbiamo lasciati a casa oggi, sì, veramente. Infatti, ho tutto o niente. Cioè, gli esterni, sì, cioè, ok, che è uguale, però. Ti fa 4 danni. Sì. E fa di nuovo quell'effetto per cui assorbe qualcosa da te. Questa era la sua prima azione. La sua seconda azione è camminare. E 4, verso l'acqua. Tocca a Mif. A me. Panico. Non so che cazzo fare, ragazzi. Allora, sicuramente mi devo avvicinare un pochino, perché sennò non riesco a hittare l'altro stronzo. Perché non mi muove il personaggio. Master non mi muove il personaggio. Controllato da Mif. Prova ora. Oh, sì. Grazie. Qua dovrebbe essere abbastanza. No, cazzo. È uno in più, allora. Lo posso fare. Puoi andare anche in su, se non vuoi andare. Ok, va bene. Cioè, sì. Dovrebbe essere 5, sì, se sì, non sì. È 5. Sì, ok, sì, perfetto. E allora rilancio l'orb. Sempre su Scarbury. Sono curioso di capire se magari prende anche tira quell'altro. Da lì no. Okay. 3x3 esatto, non è quello, eh. Come? 3x3. Non dovrebbe essere pieno. Sì, sì. Cioè, ci sono impostazioni per perché hai messo il cap al centro, tipo. Ok, ho capito. Non me lo fa fare. C'erano le impostazioni del righello, fammi vedere. Square, center e center. È questo comunque. Perché così fa il raggio, ed è 1,5 di raggio o 3 di diametro. Ah, ok, ho capito. Va bene, va bene. C'era lo snap. Snap al centro. Sì, devi togliere lo snap e metterlo senza snap. Ho fatto 6 più 4 fa 10. E 10 entra. Tira i danni. Ed è un di 4 sacro. 4. La cosa urla. Aio, Houten! E la tua sfera di luce viene parzialmente assorbita. Senso. E cosa fa? Aspetta un attimo che devo capire come ridurre. Ok, ci sono. Sembra essersi affaticato per fare questa cosa qua. Sembra più vulnerabile. Non è il termine che avrei usato. Ok, posso lanciargli una conchiglia da lancio? No, perché sono due azioni d'attacco. La sfera non è una magia, è un'arma, quindi è un'azione d'attacco. Ok. Quindi non posso neanche castare, immagino. Puoi castare. Posso castare. Però solo con azioni extra, perché ti sei mossa e hai attaccato. Adesso io un attimo. Ho counter spell. Non significa niente, no. Passo. Adone. Allora. Adone riprova quello che ha fatto prima. E sempre da 4? Sì, però io c'ho ancora una carica di Future Glimpse, giusto? E ti scadeva all'inizio del tuo turno. Ah, ok, quindi l'ho persa. Sì. Ok. Normalmente non la puoi usare per rollare i tuoi attacchi. No, sì, sì. Vado? Faccio per resistere? Allora, prima mi casto Future Glimpse di nuovo. Sì, attivo esperienza. Ok, che è sempre 4. Turgia. 13. E quella del I Cuori di Dio te li va in stregoneria. Ho visto, sì, ha già inserito. Perfetto. Yay. E ok. E poi appunto segno di nuovo, segno anche già stregoneria, ok, e casto di nuovo i Cori di Dio con un D4. Okay. Va, sono abbastanza sicuro perché credo sia un... Sì, un meno 15. Di 10. E tu avevi tipo 15. Sì. Puoi tirare i danni. Ok, un D4. 2 D4. 2 D4, ok. Ragazzi, perfettamente bilanciato. Va bene. Oh, via. Devo fare una rettifica. Tirane un altro. Perché quello di prima entrava anche se fallisce. Però entra con un D4 solo, scusa. Mi confondevo con quello normale. Io non so che cazzo, ma esco, rientro. Cos'è? Allora, via. Cambia poco. Perché The Thing fa la stessa cosa che ha fatto con Mif e assorbe l'elettricità e sembra molto affaticato a questa cosa. E stavolta dice: Bezai Shan Wo. Ok. Qualunque cosa voglia dire. Mi guarda dove fa. Non lo capisci lui. Dovrei capirlo. Dai, la magia. Tipo, mi fa... Due frasi e finito. Finito, due. Hai ancora un'azione base, un'azione... hai ancora un'azione base, perché l'azione extra l'hai usata. No, scusami, io per usare i Cori di Dio... Azione base? Usare... Cioè, sì, azione extra. The Future Glimpse e azione extra sono due. Non posso fare due azioni extra io. Sì, puoi. Da quando? Puoi usare un'azione base per pagare un'azione extra. Ok, quindi è finito. Hai un'azione base. Hai due azioni base e un'azione extra per turno. Hai usato due azioni extra, quindi hai ancora un'azione base. Posso attaccare con la bacchetta? Puoi attaccare con la bacchetta. Ah, sì. Però assorbe la magia, non potrei continuare a dargliene. Tra l'altro la distanza 6. Non so se la bacchetta ci arriva. Ma io sto volendo per muovermi. Max range. Facciamo così. Quello è un fiume, vero? Quello è un fiume. Quella roba è un fiume. Sono le rapide di un fiume. Oddio. Non tocchi nel centro del fiume. Sì, sì, sto un filino più indietro. E a sto... Ma non c'ho roba da lanciargli in testa. No, anche perché muovendoti hai fatto l'azione. Ho una conchiglia da lancio. Sì, muovendoti hai fatto l'azione. Posso... Con la conchiglia da lancio ci arrivo? Mi sa di no. Con la bacchetta ci arrivavi. C'è scritto comunque range. Ah no, non c'hai la nota. Scusa, ci guardo. Credo che sia sullo stesso coso. Senchiria si chiamava il mostro. Sì. Raggio 4. No. Merda, e non posso avvicinarmi perché poi altrimenti non posso lanciare. Esatto. O la bacchetta o passi. O ti muovi. No. Passo, sto fermo dove sono. Tocca il coniglio. Dei cinghiali, dei conigli. No, scusa. Sì, facciamo che gli carico addosso con carica. Altrimenti potrei muovermi e fargli graffio. Scusami, graffio vale 2, cioè nel senso vedo un... Attacca lo stesso bersaglio una volta aggiuntiva, sì, cioè vuol dire una volta che l'attacco, lo attacco devo. Facciamo così, io vado e lo attacco. Tanto ce n'ho abbastanza di momento. Ricordi quando ho detto nessuno di voi ha una classe con priorità aggiuntiva, il coniglio ce l'aveva. Ah, infatti l'ho visto, l'ho visto. Ormai è andata. Non è l'ho visto dopo e ho detto, vabbè, pace. È un aggiunto. E puoi tirare 2 di 10 per colpire. Oh mamma mia. Missi entrambi, ma è un buon segno perché gli shreddi l'evasione. Grazie. Maledetto. Ma ragazzi, io adesso vi giuro, adesso che ho finito rerollo la pagina perché non ce la faccio. Ho tutto niente. Esatto, sì. Bellissimo. Tocca al Tinghi. Qua. Tutti tranne Nibel subite gli effetti della sua abilità. Oh, mio Dio. la sua abilità si chiama Oblivion. Yay. Aspetta, credo. No, si chiama Nadir Gift prima. Ognuno di voi guadagna uno di Tar. Oh no. Ora posso droppare il nome perché ce l'avete. We are so back. Non potete evitare questa cosa. Non avete idea di cosa cazzo sia. Eccetto che una parte di voi è coperta di sostanza nera. Tutti tranne Lieto e Cici. Ah, non Nibel. Sì, anche Nibel. Avevi detto tranne Nibel. Tranne Lieto e Cici, scusami. Sì, okay. Okay. Tra l'altro questa cosa colpisce la... la tomba. Tomba di Lieto, sì. Ok. E... rifà la stessa cosa, cioè assegna uno tar a tutti i bersagli entro tre celle. Oh. Quindi sì. Cici si becca un'altra dose di tar e Mif si becca un'altra dose di tar. Cioè, Cici se ne becca una che non ne aveva. Okay. E Mif se ne becca una. Ok, si può usare questa cosa. Non vedo l'ora di scoprire come lo farai. Questa era la mia azione extra. Poi ho un'azione base che è graffio. E io graffio il coniglio. No. 8 entra. Gli fa 3 danni. Ok. E il tizio guadagna un altro tar. Sto troppando la maschera perché... Già l'ho segnato io, sì. Okay. E ora casta Oblivion. Oblivion vuol dire che spendo tutto il mio tar per infliggere 2 danni da oscurità a un nemico entro 3 celle per ogni tar speso e per ogni tar che il bersaglio possiede. Oh mio Dio. Ho solo il coniglio vicino, quindi praticamente fa un'esplosione di tar. Gli fa 6 danni da oscurità che non può evitare in nessun modo. Gli tira proprio una bomba di tar. E ho finito il turno della mia creatura. Tocca a Lieto. Yeah, finalmente. E... ma Lieto non lo vuole lo schifo addosso. Quanta gittata c'ha la pistola? No, mi sbaglio, ho chiuso schede. E a 5 celle, eh? Mi pare 5. Sì, non c'è scritta, ma è 5. Le conchiglie da lancio, lanciarle. Quant'è il raggio? 4. 4, quindi magari è ancora più vicino. Dove cazzo è il ruler quando serve? 3 e mezzo, quindi questo è... e andare qua, sì, infatti. Va bene. Tocca muoversi. Giusto? Cosa? Tocca muoversi per sparare. Sì, mi sono già spostato. Esatto. E I shoot him again. In the face. Un D10 e poi un D112. 10 e 5. Più. D112 che è 9. Wow, più 3, ha fatto 8, e lo... no, aspetta, quanto hai di maestria arma da fuoco? Un cazzo di niente, l'hai missato, 5. Che è una meraviglia. Vabbè. Però hai fatto 9, sul dato Fanny. The Fanny Dice mi ha dato 9. Hai castato Avatar dell'Angoscia. Però l'hai It's missato, quindi... Ah no, volevo sapere cosa succedeva, no. Mi spiace. Oh. È poco crudele da parte mia dirti il nome della cosa e non dirti esatto, cos'è. Sì, non lo voglio sapere a questo punto. Hai vai. Ancora un'azione extra. Ho ancora un'azione extra e... posso muovermi di nuovo? No, perché l'ho già fatta. E non anche posso perché fare per esempio che ho smesso di usare il piccone e vado di pugni. Perché sennò questa non colpivo mai. Sì, cioè, vacci di pugni. Vai, e meno. Non ho niente da fare. Cioè, realisticamente non posso fare un cazzo di niente. Le robe con azioni base, mi sa, le tre spell. Cioè, Fireball, però... è azione base. Azione base, Sì, ma l'assorbe, cioè, quindi... Sì, anche se fosse tipo un... Oh mio Dio! Glimp, base... no. Niente, e Lieto si gratta il naso. Cici. ci arriva. Io ci si avvicina e con la sua meridiana di Greenwich cerca di attaccare il Nos. Vi dico anche il nome, cazzo ce ne frega, tanto per voi non vuol dire niente, quindi allora Nos. Ah, Cici c'ha un di 10 più 8 per colpire. Minchia. 13, itta. Non male. Vuoi sapere il danno di Cici? Vai. 11 danni. La vita di Cici è la meridiana. Sì. Sì. Cici possiede la meridiana, che le ho dato. Sì, sì, no, dico, è la meridiana che fa tutto questo, oppure è Cici? Uè, Cici. Una combinazione delle due. Ok. Davvero. E la creatura si affatica ancora e in qualche modo assorbe il colpo di Cici e le urla Wohenny! E Cici risponde: che cazzo vuol dire? E tocca a Nibel. Allora io mi muovo. Che cazzo vuol dire Wohenny? Qui abbandono l'idea di colpire il grosso e vado di un attacco, due attacchi, un cazzotto e un calcio. Ok. Non c'è l'affiancamento in sto gioco, vero? No. 2 di 10 più 6, perché non ho più overpower sì, attivo entra, per quel momento lì. Brolla, ma non può missare. Sì, sì. 13 no, D6. Non i danni me li aggiunge lo stesso. Per poco, per quello non cambia. No, mentre allora attiva i danni dei tuoi attacchi senza armi. Aumento di rosso. Eh sì, di rosso, che però ha 2 in meno perché c'hai più 2 da un'altra parte. Ok, quindi faccio più 2 invece. Prima avrei dovuto fare più 3 invece di più 2, non fa niente. Quindi tecnicamente un attacco avrebbe fatto un danno in più a quello grosso, però non importa. Quindi è di 6. Ho già rollato il di 6, sì. Di 6 più 2, quindi faccio 8 danni col primo attacco. Sempre se entra, è contundente. Fa la stessa cosa che ha fatto finora e l'assorbe. E ora vedete una gocciolina di sudore colargli dalla fronte. Wohenny. Ecco, vai, tiro un calcio nel becco. Nibel non ci pensa troppo. 10. Entra. Roll. 6 più 2. Assorbe di nuovo. E la parte di oscurità che lo copre si shrinka e rimane praticamente solo la parte d'acciaio. E questo coso si mette a terra con la testa bassa e gli sbuffo e uso di nuovo sprinter, quindi ho di nuovo il più uno a causa. Ok, e termino il mio turno. Tocca al coso grosso. Il coso grosso non credo sia in range per tirare un pugno a nessuno, per quanto sia lungo non è così lungo, quindi fa una dick move. Entra in acqua. No! Immagino. E sussurra con la sua voce gutturale e stranissima. E un portale oscuro lo avvolge. E ora rolliamo un bel dado per vedere chi di voi finisce in fiume. Non Adone. No! Allora, pure. L'ordine sarà 1 Adone, 2 Mif, 3 Nibel, 4 Lieto, 5 Cici, 6 il coniglio. È giusto che sei anche lui. Cici, Madonna. Cici, Daghe. No. Daghe al merda con la lancia, Cici. No, uno scambio. Non azione base, azione extra, ha ancora un'azione con cui tira un pugno a Nibel. Ok. Ti abbassa di uno l'evasione, credo. Sì, vado a 12, che è 13 adesso per il coso. Sì. Fatto. E ce l'ho segnata nel token. Ah vabbè, no, sta schifezza qua ha fatto anche danno a Cici, se vi interessa. Nello specifico le ha fatto 4 danni. Tocca a Miff. Ok, allora, la pietra, obbedisco, ha risposto all'abilità del tizio. Può rispondere anche alle magie facendo tipo la risonanza, cioè... è solo che non ho idea di cosa poter fare, cioè... 12, vediamo un attimo il range, fammi capire. Ti ripeto che la creatura d'acciaio, quella piccolina, è a terra con la testa china e le braccia così. Aspetta che non ti sto guardando in questo momento. Arrivo, con la testa... Ah, si sta inchinando. Sì. Ok, quindi ha fatto bandiera. Ok. Ho una domanda da farti, Master. Promettia, com'è che ha fatto fuori queste creature molto toste al tempo? Della Natiria. Non l'avrà mai visto, l'avrà visto. Una di queste creature. Le ha viste capo? Non ha ucciso una di queste creature. Il rinoceronte, vuoi sapere come ha ucciso? Esatto. Un mix di necromanzia e botte. E comunque... Con botte intendo dire proprio prenderli a pugni. Però non è tanto diverso da quello che stiamo già facendo. Esatto. Infatti, quindi c'è proprio non c'è dell'altro. Ah, che due coglioni. Tra l'altro necromanzia intendo dire che lei si self-buffa per menare, quindi la roba che sta facendo Oss. Nibel. Infatti. Sì, più o meno. Oss su Nibel. Oss su Nibel. Ok, allora facciamo una cosa di questo genere. Sniper agent proprio. Mi casto i power, cioè emotional power, e con una carica di vuoto. Mi dai un secondo solo? Sì. Perché comunque ti vorrei ricordare che c'è uno di voi che ha mangiato una pallina. Dove? Ha anche le magie? Era solo sulla tecnologia? Assolutamente non ho mai detto questa cosa. E chiederei di rollarmi un D6. Sei. Hai rollato il massimo? Sì. Hai emotional power con Fear? No, me lo stavo facendo per fare una carica di vuoto su di me. Ah, lo usi con Fear. Complimenti. Lo uso con Fear? Su chi? A tua scelta al bersaglio. Ok, proviamo il tizio grosso, cioè... Lo scheletro di Pseudo Celso, tanto ci arriva come città. Sì. Dammi un attimo, guardo la scheda. E in caso i power... Non gli fai un cazzo. Guarda, ho sbagliato il numero. No, non si spaventa minimamente. Grazie per aver partecipato. Quindi anche se faccio male questo, aspetta che mi faccio... Però ha comunque il costo di uno. Sì. È uguale, okay. Tranne l'effetto. Sì, ok. No, ho modificato il mana attuale. Allora, 14 era qua. No movimento qua. Ctrl Z. Hai Ctrl-Z. Un'altra azione base o un'azione extra? Azione base o un'azione extra? C'ho ancora l'orb o la del tutto... La del tutto mangiato? No, ha assorbito l'energia che hai sputato. L'orb ti ritorna. Ok, allora provo a mandarlo sul tizio. Ok. Facciamo di 10. Come fai l'area così? Sì. Ok. Per evitare di prendere gli altri. Ho fatto uno, non va? Credo anch'io, sì. Però gli shreddi di uno l'evasione. Aspetta che qua mi faccio che... Guadagni l'esperienza con entrambe le cose, sia con le armi che con stregoneria. Hai un'azione base e poi tocca a Dadone. Il punto esperienza li ho presi anche prima, avevo bene, ci sono solo dimenticato di segnarli. Li hai presi, cioè, ogni volta che li hai segnati? Sì, ogni volta che uso la pistola li prendo. Sì, scegli ad arma da fuoco o a... Sì. Okay. Ah, giusto. Poi ti ho detto che prenderai 5. Sì. E quindi vado a 29. E provo di nuovo a castare i power. Anche se... Puoi castare due volte la stessa spell nello stesso turno? Sì, c'è cioè, quello con la strega. Sì, non so la stessa spell, effettivamente. Cioè, so sì, che... Sì. Cazzo vuoi, sei quello della strega? Sì, fino a due magie, esatto. Sì, sì, sì. Bene, e provo... Rollon di 6, madonna puttana. È mica cambiato di nuovo l'effetto di overpower oppure no, è rimasto... è rimasto uguale. Okay. Sembrerebbe cambiare una volta per cast. E hai okay. scelto quello del dolore di power. Che devo andare a vedere cosa okay. fa perché chiaramente non me lo ricordo a memoria. Neanche io, infatti. Possiedi delle schegge? No. Lo so. Ottieni una scheggia, complimenti. Ottengo una scheggia, vai. Mettiamola insieme al TAR. La scheggia è un bonus temporaneo che si rimuove quando ti riposi. E non le consumo. Sì. Sei un modo per consumarle? Sì, altrimenti te le tieni allegramente. E power, dopo che le consuma. Ok, tocca a Dadone. Sì. Vado in bagno, scusate. Tardi per usare Every Talk? No. Blink? No. Nel senso... È tardi però perché qualcuno ha mangiato una pallina che non avrebbe dovuto mangiare. Più che altro non ci vedo l'utilità in questo... Cioè... Sta cosa è arrivata e ci sta picchiando. Noi stiamo picchiando, ci prenderai per dirgli fè? Cioè, quello che cazzo gli dico? Please don't, al massimo. Cioè. Sì, posso... Puoi farlo poi, eh? Comunque ti dà un buff, Everclock. Ti dà la roba che puoi confondere la gente. Come reazione. Ah. Sì, dai, credo che questa cosa la proverebbe a fare Adone. Bene. Adone decide di castare Every Talk. Rolli un D6. Col buco di culo strettissimo. Ti odio io. Ho fatto uno perché non posso fare altro. Invece che Every Talk hai castato Every Sight. Bello. Vedo Dio, cosa vedo? Invece di poter parlare con gli altri, puoi vedere cosa stanno pensando. Ok, cosa pensi? Quello grande e grosso sta pensando okay. Gaga. È un neonato, ha la capacità psichica di un... Perfetto. Bambino. Ma non di un bambino piccolo, di una persona nata da 30 secondi. Certo. Raga. L'altro coso sta pensando, Cristo, questi mi ammazzano. Devo andarmene. Non posso condividere i pensieri con lui. Non sei sicuro di come dovresti fare. Poi, cioè, se ti inventi qualcosa, posso valutarlo. Gli mio psichicamente immagini... Dio e Silas che scoppiamo, fra gli danno psichico. Però il house di 4. What? Non può fare? Sì. Wow. Non la posso pensare intensamente a io che lo picchio, che lo sposto. Sì, il house di 4. Perfetto. The God of Minor Inconvenience. Che ha avuto questa esperienza che vi ho raccontato. Voi quello che vedete è la cosa messa così che sviene. Bellissimo, io non mi è chiaro cosa sia successo, però la messa così ha aperto i sensi. La scena di Eleven che usa i poteri così. Complimenti Adone, vuoi fare dell'altro o... Ma è svenuto quindi? Sembra essere caposi. Ok, allora vedete che Adone era tipo concentrato, lo vedete sorpreso. E aspetta che mi segno l'esperienza, scusami un attimo, Every Talk è una... Teurgia? No, è naturale. Ah, scusami, errore mio. I'm actually. C'è ragione, naturale. E quindi ho fatto 13. Ok. E a questo punto, di quanto mi posso muovere io, Adone 4? Poi posso lanciarla alla conchiglia se mi muovo? Every Talk è un'azione extra o un'azione? No, non puoi. No, hai usato i danni come azione extra. Puoi muoverti, ma non puoi fare altro. Ma tra l'altro, sì? Se ti casca l'occhio, vedi anche i pensieri degli altri che sono lì con te. Tipo, cosa pensano i miei amichetti? Cici sta pensando, porci gli dèi, sto affogando. Che comunque c'è tolto gli altri, sì, gli altri lo potete dire voi. Cosa pensate? Una alla volta. Vai. La pallina funziona anche sulle magie. Bellissimo. Nibel, se esiste la possibilità di ringhiare nella testa, lo sta facendo. Sì. In questo momento. Sono due lupi dentro di te. Mirf sta maledicendo Lieto in una maniera incredibile, cioè immaginati tutti gli slur che possono esistere, ok, da nord a sud. Posso aggiungere che alla fine pensa, io ci ho pure scopato con questo. Esatto, esatto, esatto. Cioè tipo le slide di lei che lo insulta e lei che lo scopa, lei che lo insulta e lei che lo scopa. Esatto, dove provo tipo la vede così. Mi spogliette il Mirf scopare. No! Prendi danni tu da questa cosa. Sì, chiaramente. Però ho di 4 danni psichici. Allora, Adone si sposta a questo punto. Inizia a spostarsi verso sì. Cici. Va bene. E fa... Cici, ti vengo ad aiutare! Il nostro è capo, quindi andiamo a Lieto. Aspetta, c'è il mio coniglio! Ah, scusami, sì. Beh, non c'è il coniglio. Scusami. Il coniglio c'è lo Smoothbane che deve... può correre e lanciarsi ad aiutare Cici? Non può credo. Correre su aiutare Cici ne discutiamo tra un attimo, però sicuramente può no, correre verso può arrivare e correndo sì. Il doppio della sua velocità di movimento. Beh, quindi riesce a buttarsi in acqua sicuramente. Dovrebbe riuscirci. Si muove di 10 correndo. Perfetto, sì, allora facciamo che è benissimo. Appunto, dopo che Adone dice questa frase, arriva questo coniglio giga enorme che si lancia e PAM! Entra in acqua. Ok. Non fa altro, immagino. Cioè, correre... Non può richiede... tirarla... No, correre richiede il tuo turno. Infatti, sì, perfetto, fine del... Cici rolla per nuotare. Nuota con successo. E la sua seconda azione è usare il tuo coniglio come pedana per lanciarsi sulla terraferma. Yoink, stupido coniglio. Ci riesce. Ma no, dai, poverino, l'ha aiutata. E Cici ora è bagnata, stanca e finisce il turno. Stavo dicendo sì, è incazzata però. Non sta più stanca. Tocca a Nibel. La roba di coltura all'exp si aggiunge anche alle magie, giusto? Sì, quando guadagni esperienza. Okay. Prima mi ero messo solo uno di XP. No, ehi, aspetta. Ma avete saltato me. Ah, è vero, scusa, tocca a Lieto prima di Cici. Okay. Infatti. Scusami. Vabbè, ti dico che invece di essere a 9 sono a 11 di XP naturale. Va bene. Hai livellato? Cioè... Di cosa? Di quella... No, naturale no, sono a 11 adesso. Sì, cioè, sì, nel senso ho messo le due... Hai livellato. Ah, già, c'ha ragione, va, è vero. Uno e uno. Sì, te l'ho segnato. Tra un cazzotto salgo di pensarmi, trovo. Tocca a Lieto. Allora, Lieto gli spara di nuovo, quindi ti lancio nuovamente al... Di nuovo sto intendendo non al tipo svenuto, al Gugu Gaga, sì. Alle ossa. Gugu Gaga Monster. Gugaga Monster? Dov'è averlo preso? Entra. Ok, meno male. Che paura. 100. Il numero di Dio. Certo. Visione del flusso. Numero degli spiriti malvagi. Che cazzo di cosa voglia dire? Che è questa cosa? Please describe. Praticamente riesce a vedere cosa farà nel futuro il coso. Ah, bello. E gli fa i danni normali. Quindi un D8. Sì. cosa farà nel futuro questa cosa? Tira il D8 che in base a quello fa poco cambiare. 5. Ok, niente, gli hai fatto pochissimi danni. Questo coso cercherà di accumulare più tar possibile e di farvi affogare nel fiume, quindi continuando ad andare nel fiume e poi teletrasportandosi al posto di uno di voi. E non credo di... cioè, non sai perché lo sta facendo. Sai solo che il suo scopo nella vita è fare questa cosa qua. Liberarsi degli intrusi. Oh, cioè, hai usato un'azione base, un'azione extra e un'azione base. E l'azione extra è castare Future Glimpse, che non sarà Future Glimpse, I guess. No. Infatti, quanto devo dire? Un D6? Tirami allegramente un D10. Un D10. 4. Dammi un attimo, che devo prendere la mia roll table numero 154. This is a roll table kind of game. Hai fatto 4? 4. Casti Expel Evil. Bellissimo! Ci stavo contando su qualcosa che facesse del danno. Oh, damn. Bello. Domanda, questo è un Revenant o un demone? È un Revenant. Gli fa malissimo. Devo resistere. Porca troia. Cosa ti segue, mente? No, sì, cioè, mi sarebbe mente livello. Ma dovrebbe entrare perché è 5 più 2 per la tua mente. 3 di mente. 5 più 6, 11 più il tuo livello. E il livello di che cosa? Il Tutto livello male. mio, semplicemente Livello. 5. 16, entra per 2. Gli fai 2 di 8 più 3 di 8. 3 di 8, scusami. 3 di 8 Più più 2 per il tuo S. Che cazzo No, è? scusami, 2 di 8 più... Dialettica più 1. È 2 di 8 più 8. Ok, 2 di 2 8 di più 8 più 8. 8. Sì. No, scusa, te ne hai tirati 3, era 2 di 8. Ah, Ho ok, fatto scusa. male. Beh, Tolgo il 3 ed è prendi errore l'8. mio, sono confuso io. Fai 21 danni. Questo gli ha fatto Yes! male. Meno male. Dovrei avere una reazione, dammi un secondo. Perché continua a chiudere sta merda di scheda? Non devo chiedere una cosa. Ah sì, posso Fai. annullarla. Noi. Posso usare la reazione per confondere la creatura? Sì. Confondere. Vai a vedere cosa c'è scritto. Credo sia quando io attacco, però. Ah, no, niente. Vado a vedere. Confusione. Un bersaglio confuso seleziona una direzione casuale per lanciare i suoi attacchi e le sue abilità. Tira un D8 e assegna una... Sì, quando lui fa qualcosa. Dai. E niente, gli hai fatto danno, ma ha assorbito la tua cosa e quindi ha resistito. La magia sembra inefficace a questo punto. Hai azione base ancora. Qua guadagni esperienza teurgia e spendi il mana, chiaramente. Mi Gli ho auguro che tu sparato. stia segnando tutto. Sì, aspetta, che gli ho sparato, quindi sono a 11 di arma da fuoco e 3 di teurgia, no? Com'era? Più Era 2 uno, più? più tre, più tre. Tu puoi 3, sempre ritornare di 3, tre. ok. Sì, fai prima. Posto. Ok, peccato, molto peccato. Sì, era un ottimo danno, ma lui era resistente a... cioè, immune a sta cosa, fondamentalmente. Se hai un'altra azione, sono tocca a Nibel. Vai, Nibel. Nibel. Bene. Faremo il buon vecchio 1-2. A pugni. Sono contro quello grosso, quindi fare Beast Power. Potrei fare sta cosa. Faccio il primo attacco, faccio Beast Power, faccio Slam. Vediamo se colpisce. Roll di 10 più 6 di 7. Evita. Faccio Iron. No, come cazzo era? Iron Body? Quello che è il No, rolli? Prowess. Prowess Sì, faccio. puoi rollare. 8. Evita. Faccio. Posso fare obolo alla vanità? Sì, consumi una mana penny. O posso fare prowess di nuovo? Posso farlo sullo stesso attacco? Non credo, due volte sullo stesso attacco. Due volte per incontro, puoi ritirare un test fallito di agilità o fisico, oppure il tuo attacco fallito. Ah, boh, se non c'è scritto allora poi. Ok, allora faccio di nuovo prowess e consumo. Vai. 10 più 6. Perché... E porco dio, allora, adesso uso obolo la vanità, vai. Vaffanculo. Che cazzo. Vai. E non è possibile. Curso vadone. Ma fra... Oh, quindi... Entra ampiamente. Ok, faccio roll di 8 più 2. Va bene, faccio 3 danni e gli riduco la resistenza a impatto se dovesse avercela di 1. Può andare in negativo, quindi gliela riduci comunque. Sì. E gliela riduci prima o dopo aver fatto i danni? Un di 8 danni di impatto, riduci la resistenza a impatto del bersaglio di 1. Non c'è scritto, ma suppongo dopo. Sì, dopo. Okay, e poi gli faccio il calcio. E lo slam è tipo... il, non lo so, il Gear 3, viene il pugnone grosso e lo colpisco con un cazzotto. Faccio tiro il calcio di 10 più 6. Roll di 10. Ho sbagliato. Roll di 10. Non credo cambi niente. Ok, un fottiglione. E faccio roll di 6 più... tecnicamente livello con l'attacco prima, quindi adesso... Sì. Aggiungi più 1. Ho più 1, quindi ci avrei più 3 di danni. Era i danni? No, era la precisione. Quindi... era la precisione, non capisco. Sì, era niente, più 7, okay. Invece che più 6. Max damage. 8 danni, sì. La resistenza cosa fa? Riduce, aumenta i danni che di infliggo? Uno. Fondamentalmente aumenta, okay, i danni di 1. Questo l'ha sentito. Ok, quindi tiro un bel calcione... cos'è, tipo un uomo grosso, no? È un uomo molto, sì, voluminosissimo e fatto di roba gelatinosa nera. Ok, tiro il pugno allo stomaco e poi gli tiro tipo una ginocchiata, se si abbassa tipo gli tiro la ginocchiata sotto il mento. Tutte le cose che avete fatto finora non l'hanno fatto né flinciare né reagire in nessun modo. L'unica reazione che vedete è che questo fluido che lo copre inizia a muoversi in maniera più o meno frenetica. E col tuo primo colpo fa una vibrazione leggera, col tuo secondo fa una vibrazione molto importante, come se facesse fatica a rimanere intatto. Se non hai, okay, altro, tocca a lui. Sprinter di nuovo. Ok. Tocca a lui. Come prima azione ti tira un pugno. Sì, ho 13 di evasione. Lui ha più 5. 11. Ok, shredda. Scendo di 1. Sì. Quindi come adesso ho 12. Come seconda azione si sposta qua e finito. Bene. Tocca a Mif. Allora, solo le cose fisiche effettivamente gli fanno male. Le opzioni di Mif sono: o avvicinarsi e fargli una conchiglia da lancio, o tirargli uno scettro in testa, o lanciargli la palla. Oh, lo scettro in testa. Cioè, proprio a mo' di bonk, però non vorrei rompere lo scettro, perché lo dobbiamo ancora analizzare, quindi direi che quella è no. No, sai cosa? Una cosa interessante che posso fare, fanculo, brucio un turno così. Posso avvicinarmi da pietra e letteralmente... infondere la mia magia sulla pietra. Sì. Stregoneria forte, purissima. Cioè, vai, provo a farlo. Aspetta, mi rolli un D8. Un D8? Uno, oh mio dio. Sei stata molto fortunata, sai? Su serio? Sì, perché prendi un fulmine che ti fa un danno. La sostanza ambrata che la contiene, quando riceve la tua energia, la trasforma in energia elettrica e te la rispedisce. Aggiungiti, cioè, ti toglio il danno, l'elettricità da tuono. Ok. Da questa cosa mi capisce se si può redirezionare. Non a lei, ma a qualcun altro. Non in modo consistente. Probabilmente va verso la persona più vicina. Sai, ti faccio rollare. Ok. No, quindi lui è ancora lontano. Mi sono già spostata, ho fatto questo. Un extra. Niente, dovrei spostarmi di nuovo. Allora Mif rimane vicino alla pietra. Ok, tocca ad Adone. Siamo abbastanza vicini, quindi proviamo a usare la tartaruga da lancio, la conchiglia da lancio sul di 10 per colpire. Faccio 1. Entra e lo colpisci, tira un D4 che sono i danni. Dai, E che è sta roba? E lo colpisci, gli fai un pochino di danno, non in modo drammatico. Se la puoi togliere perché l'hai consumata, si spezza una volta che l'hai lanciata. Okay. Hai ancora un'azione base e un'azione extra. Io ho visto che c'ho ancora il rosario, vabbè. Gli lancio un libro, no? Hai l'impressione che lanciargli la conchiglia o lanciargli un sasso sarebbero stati due effetti molto simili. Non posso non attaccarlo di nuovo in un turno, sasso? Però al prossimo turno puoi lanciargli un sasso se vuoi. Perfetto. Non ha senso, vabbè, provo a usare la bacchetta, tu. Ok, no, l'ho già fatto. No. O no? Ok. No, è vero, un'azione attacco, scusa. È infatti un'azione, quindi non posso, potrei fare... E non puoi avere altre azioni, sai? Puoi passare. Sì, mi si è bloccata la cam, ma dai! È un botto che non succedeva. No, ma allora... Generalmente un po' non è... Mi sentiamo laggare. Infatti. Però andò. Vai. Ok. Passa il turno? Tutto. Ok. Tocca a Lieto. Lieto! Aspetta, no, fermo. Aspetta, prima di passare il turno. Io ho ancora Everytight a 2. Sì. Ok, la creatura svenuta cosa sta pensando? Niente, perché è svenuta. Perfetto. Vabbè, basta, ok, possiamo andare avanti. Ok, scusami, speravo fosse qualcosa di più interessante, ci sta. No, cioè, boh, magari sta sognando. Lieto. Ma, altra domanda, quando è il livello delle... 10 per il livello attuale. Ah, ok, quindi 50 punti. Sì, arma da fuoco se l'hai a 1. Ah, per il livello attuale della cosa. Ok, sì. Ok. No, non il mio livello. Infatti, tipo, e si tolgono i punti. Quindi sei a 1 di arma da fuoco. Che sì, sulla Managan ti dà più 2 precisione. Quindi gli sparo di nuovo. Hai tolto i proiettili neanche per il cazzo, immagino. Ne ho sparati 3, quindi me ne mancano 3. Yes. Di 10, questa volta è più 5, mi pare. Sì. Entra allegramente di 112. È un'arma migliore, non l'ho mai vista. Anch'io. Cioè, sono proprio molto contento di questa cosa. Hai bow, 74. Io mi ritiro a vendere queste cose con Irumaru. Questo è il mio personaggio. Wow. Oltre al danno, applichi silenzio al bersaglio. Benissimo. Oltre al danno, l'ho perso. 2 per... che livello sei? 6 o 5? 5. 2 di 8, beh? Sì. No, entra. Cioè, ho tirato, ma non potevo... Un di 8 per colpire. Per il danno. 6. E il tipo di danno è oscurità, vero? E in teoria sì, adesso non... Dipende dal proiettile, ovviamente, questa volta non lo cambia. Ok. Hai dei danni extra? No. No. Cioè, a meno che... No, infatti, solo no. Più una precisione, niente. Il danno base di entrata di 8. Sì, fine. Quindi gli fai un pochino il danno. I've been useful. E gli hai fatto il silence. E gli hai fatto il silence. Cioè, non fa umore. No, silence no. Non può castare. Silence di... Non può castare. Ok, no, non lo sapevo. Quale lato del silence avessi tenuto? Hai un'azione base e un'azione extra. Allora, Che finora la non prima... l'ha castato comunque. Cosa? Finora non l'ha castato, mi pare. E il teletrasporto oscuro era un teletrasporto. Okay. È vero, c'è quello. Sta per succedere una cosa molto funny al prossimo turno, quindi. Non ha più assorbito magie comunque. E non l'avete più fatte. Ok. Quindi non contano gli effetti magici della shenanigan? Alcuni sì, alcuni no. Cioè, okay, ci sarà okay. Sicuramente una logica, ma per ora è difficile da capire. Allora, sono... Aspetta, mi devo segnare che mi mancano. Eia, 3 proiettili della Managan. E... Ma sì, cerco di rollare di nuovo la fortuna con Fisher Glimpse. Di 10. Aspetta, mi devo aggiungere altri 2 di... Scusami, no. Mi devo segnare 4 di mana. Ok. Ah, aspetta, in realtà... Fisher Glimpse l'ho pagato interamente con mana, quindi... Saliva di un livello, ma non cambia nulla. Saliva di un livello, sì, perché non cambia un cazzo. Sì, beh, ottieni a si carichi, ma... Sì, non cambia un cazzo di niente. È un D10, vi detto, da rollare. 7. Casti help. Wow. Help, che cosa fai? Un bersaglio a tua scelta. Entro 20 celle, tipo. Aggiunge il tuo S al suo prossimo test. Quindi aggiunge più 4 al suo prossimo test. Più 4 o più 5 perché c'ho Mind Boost? Se hai Mind Boost è più 5. È più 5. Chi lo vuole il buff? Chi è il prossimo dopo di me? Cici! Bene, aiuto Cici. Dai, è Cici. Cici ha tutto l'aiuto che le posso dare. Figata. Ah, Sirio, non abbiamo fatto il turno del coniglio. Prima i Cici... Che sta nuotando, blu. Devi rollare un di 10 per evitare che affoghi. Let him drown. Ma no, dai. Non è bravo a nuotare il coniglio, mi spiace. Muore davvero? No, non muore. Prende un botto di fatica e viene trasportato di... No! No, povero coniglio. No, controllo di 6. Dai, sei fortunato. Questo era l'inizio del turno. Ora puoi fare il suo turno. Posso andare lì? In acqua ogni movimento è raddoppiato. Cioè costa 2. Ok, quindi... Fin qua sono 4, per esempio, e 5 arrivi qua. 6 arrivi qua. Non posso mettermi la stessa cosella di Cici, no, vero? No, non puoi. Mi spiace. Sono così metto qua dietro Cici. Okay. Supporto morale. Tocca Cici, che non è per niente felice di come stanno andando le cose, e tenta di piantare la sua lancia nel culo del coso, nonostante questo non abbia un orifizio visibile. E come dicevo... Sì, ha ricevuto il mio incoraggiamento, tipo... Sì. Minchia. 24. Troppo. Dammi un attimo. Lo facciamo subito, Cici. Lo facciamo subito. 24 fa un di 12 più 6 danni. Scusa, un di 12 più 9 danni. Fa 20 danni. Cici mena come un fabbro. Ma perché sono sempre gli NPC che ci mettiamo appresso che menano come dei fabbri? L'arma fabri? Era tua. L'arma era pensata per te e gliel'hai regalata a Cici. gliel'ho pestata l'arma, Cici. Bel take. Cici estrae dalla saccoccia una pergamena, la srotola e pronuncia: io ti distruggo! E casta destroy. Ah, giusto. No, perché cazzo, Cici, cazzo. Ha sculato, ha castato la fine di destroy. Ho bisogno di un secondo. Prego. How do you wanna do this? Vero, però è anche merito di Lieto, diciamo le cose come stanno. Sì, fa danni da oscurità. 3 di 6? Fa? No, 2 di 6 perché ci fa schifo al cazzo. Sì, quindi non abbiamo mai analizzato la... Io mi ricordo di averlo fatto e lui mi aveva detto tipo è una lancia. Io tipo... Anch'io me la ricordo questa cosa, effettivamente. Esatto. È una lancia. Però è una buona lancia. È la migliore lancia del creato. È una lancia di un materiale molto resistente. Vabbè, wow. E mi devo ricordare di chiederla a Cici. E... Boh, visto che l'ha fatta lei la kill col supporto di Lieto, legge la magia e le ossa della creatura iniziano a comprimersi finché non diventano una palla d'acciaio e il corpo nero di Juice scoppia e la palla cade a terra. Ui. Tutti a correre a raccogliere la palla. Sì, sì, la palla è nostra, ovviamente. E qualcuno se la mangia. Io boh. Non ho mangiato altre palle. Guadagnate esperienza. Wow. Quanta? Ve lo dico subito. Guadagnate 7 di esperienza di level up, quella base. Mm. E guadagnate. Faccio cifra tonda per mia sanità mentale. 2 punti statistica dove volete. Vi segno io i punti statistica, nel senso vi segno quelli massimi. Segnami tutto a me, per favore. Cioè a me, okay. Segna, non voglio toccare. Va bene. 2 punti statistica dove vogliamo, sì, detto. Io aumento il massimo, voi poi li distribuite. Se volete, non dovete distribuirli, okay. Ora, chiaramente. A riposo possiamo distribuirli. E cioè, o adesso o a riposo. Faccio adesso. In mezzo no. Per ora ritengo. Poi ho messo già dove mettere. Vabbè. Questo diventa un off. That's it. Ma ci hai dato 2 punti statistica da mettere a quelli che abbiamo già. Cioè... Basso a sinistra. Riga 44. Riga 49. 49. Ah, ok, perfetto. Quindi ho 4. Non puoi far salire nulla se non verde. Oddio, infatti. Potete essere rosse in realtà. No. Io non mi ricordo perché devo far salire il giallo. Sai cosa? Che fai il giallo? Hai ragione, sai cosa? Aumenta anche il livello del coniglio. Beh, mettiamo 24. 18. No, che cazzo faccio? 23. Quando siete soddisfatti ditemelo. Io sono questo. Ah no, sono un coglione. Sono un pirla di quelli patentati io. Beh, l'hai scoperto adesso. Sì, no, just start. Me ne manca uno e lo lanciamo in... Boh. Prima ho messo l'exp senza armi, sono livellato, però 29, ho preso 5, sono arrivato a 4. E mi sono messo anche 5 punti a teurgia, visto che ho usato Oblo alla vanità. E il resto te l'ho detto la prima. Perfetto. Ma la penny l'ho consumato, fatica me la son messa. Okay. Overpower lasterà per un altro paio di turni, dei quali hai un sacco di dialettica e cultura più del solito. Sì. Se nessuno di voi dice nulla, Cici si riprende dal suo cast e dice: Cosa cazzo erano quelli? E io il tipo è svenuto, tra l'altro. Infatti io vado dal tipo il ladiro e provo a toccarlo col mio piede. Quando lo tocchi, il tizio si rianima per un istante e urla: "Boh, non si rende!" E scoppia. Cerco. E scoppia? Sì. No, io volevo comunicargli con la mente. Posso provarci ancora? Non c'è rimasto nulla. C'è rimasto i suoi drop che puoi raccogliere. Subito, cosa ha droppato? Di rollare un D20. Ok. Beh, dovrà... Sì, un D20. Vabbè, e anche oggi. Che non vuol dire nulla nel tuo caso, perché non è che avevo preso il meglio. Wow. Con la faccia. E Alice? Preferisci? Ho tre scatole. Oh no. Preferisci? Il pacco misterioso. Il pacco d'acciaio. O il pacco energia oscura. Allora, c'è qualcosa che dà un'inconvenienza ad Adone, ma è comunque un buff? Lo sta scegliendo Sirio, questo. Sì. Non sai niente. No, è che... Devo scegliere... Non... Hai mastrullato, quindi ti faccio scegliere il drop raro. Ci misterioso? Sono tre drop rari. Misterioso, acciaio o di energia oscura? Vai per il gambling. Vai per il gambling. Chat, energia oscura o misterioso? Gambling. Sempre il gambling. Cioè, rerollo, faccio un D3 in base a cos'è? No, no, no, dai. No, no, gambling nel senso il misterioso. Ah, il misterioso. Sì, ci sto anch'io. Color Viking. Volevi l'oscurità? E allora prendi misterioso. Misterioso? Sì. La struttura della creatura collassa in una forma cristallina nera, e questa struttura cristallina nera presenta una fessura oddly coin shaped, cioè per una persona normale non è vera sta cosa qua, ok? Cioè non ha senso, però vivi in un mondo dove tutti sono abituati ai manapenni, tutti sono abituati alle fessure dei manapenni, e quella ha la stessa forma. Dietro si avvicina di pensieri, no, e gli allunga da donna un manapenny senza dire niente, tipo... No, no, la void coin. Quella... Metti un manapenny dentro. Quella che... quella... Ma bisogna sperimentare. Metti un manapenny. Prendo un manapenny, poi guardo Miff e dico... Secondo non te so è meglio mettere il void coin o il mana? Non lo so, so solo che non ha senso metterlo quando abbiamo quello vicino. Cioè, indica il pilastro. Sì, magari dopo. Allontaniamoci un po', magari. Il pilastro scarica. Quando muore il proto Nadiro, il pilastro perde completamente l'energia e rimane una pietra strana. Ok, io sono una domanda. Oss è andato Ha detto brb e se n'è andato. Però è brb da un po'. E nel mentre la bubu mi prendo la bere. Fermiamoci un attimo, vai, perché vai. Cioè, qualsiasi... adesso è finito il fight e sì. Promezia! Porca troia, wow, sì. Bellissimo. E quindi bisogna andare fino a Nadiri adesso, non credo. No, bisogna andare fino a dire adesso. Perché qual è così sarebbe il piano di... Dobbiamo sistemare il mondo adesso. Hanno rotto il cazzo. Nessuno che ha detto questa frase ha mai fatto delle cose sbagliate. We have to fix the world. Don't you mean save? No. The world was already saved. I'm here to fix it. No, Lieto si sta convincendo sempre di più che bisogna fare un bel viaggio in Nadiria. Quella dell'acqua che non è finito. L'ho bevuta fino a questo punto in un sorso solo. Sì, il problema è che era troppo fredda. Infatti, adesso vai a cagare fortissimo. Penso anch'io, forse per quello che ho sempre la diarrea. Sì, acqua fredda ti fa venire la diarrea. Però, no, sei fisico... debole, perché io bevo sempre l'acqua da frigo e sto bene. Sei tu debole. Sì, così tanto ciaccarla senza un attimo... È debole Pjanic. È debole Pjanic. Conta come bulimia se mi faccio venire la cacca addosso di proposito per... No. Sì. Di proposito, no. Se la parte importante è di proposito. Infatti, sì, ma non è che tu ti fai... Cioè, sempre, ogni giorno. Sì, ha capito il problema, ha capito il problema. Pensa ai due amici bulimici, quindi. Posso diventare il terzo? Ma che però, raga, cioè basta. Raga, porco Dio. Voglio smettere di mangiare e diventare skinny. Porco Dio, sta roba la stiamo registrando. La tagli. Esatto, cioè basta letteralmente tagliarla. Cosa che non farò cioè... mai, lo sapete tutti che sono pigro. No. Avete presente Tintoria, l'avete mai visto? Tintoria è il cioè, podcast sì, l'ho visto, ma non... con Tinti e Rapone, e il meme è che loro non hanno mai tagliato un cazzo perché Tinti è troppo pigro per andare lì a tagliare le cose, e quindi va on air pieno di lui. Però... che dice no, ma questa poi la tagliamo, tranquillo, e non la tagliano. Bellissimo, bellissimo. E... ti piace il lavoro che ti ho mandato oggi, i personaggini? Se li vuoi, cioè, non li vuoi condividere o non li vuoi condividere? Ho già condivisi. Ma non ve li ho condivisi. Ah, beh, sì, condivisi. Beh, ah, li hai visti rimando... su Instagram poi. Quindi... Ah, sì, vero, li ho visti su Instagram. Vaffanculo, scusa. Ok, osso. Tutto bene? Cioè, se c'ho un po' di mal di pancia. Ah, ok. Ah, caccatosta. Caccatosta. Sono l'unico che ha uno stomaco funzionante. So anche Ica. Ma sai che anche a me mi dà. No, adesso oggi mi dà le civette. Ma raga! Ho mangiato pasta sia a pranzo che a cena, secondo me è quello. Ma non sei 50 anni, ma anche se ci devo dire, siete che ho mangiato troppo pasta, non lo so. La faccia l'hai vista, cioè, non è che c'hai 50 anni, però non cozza bene. Non ho problemi col glutine, se ho problemi col glutine, mi spiace, ma morirò mangiando pasta e Giovanni Rana verrà al mio funerale. Obianic, io me la sono segnata la ricetta per la torta a cacca addosso. Però quella la mangiamo per ultima cosa, dopo che finite le festività, sì, e tu la mangi, certo. Vai a dormire, è successo. Esatto. Sì. Perfetto. La torta cacca addosso. Che poi verrebbe la cacca addosso anche a me. Vabbè. Ti credo. Sì. Volete che diciamo ancora due stronzate o che continuiamo? No, continuiamo, dai. Aspetta. È vero che sarà vero. Sì, è entrato osso, prendiamo. Andiamo. Allora, Adone ha trovato una pietra in cui infilare... cazzo, no. E però parli così, Cristo boia. È sparita la bellissima creaturina, il Nadiro, e ha fatto cadere una pietra scura in cui c'è chiaramente il posto in cui inserire la monetina. Adone adesso ha in mano la pietra, un manapenny, e ha chiesto a Mif se è meglio mettere il manapenny o il void con coin. Mm. Oh, abbiamo una terza opzione più caotica. No. Sì. Quale? No, quella la capra di Temo fa aver rilasciato un void coin, vero? Non sì, altra, no. Era quella. Sì, perfetto. Sì. No, Mif gli ha risposto che forse è meglio evitare con il pilastro, che non si sa mai come reagisca, anche se scarico, non mi fido del master. Io la proviamo più tardi. Allora Adone si intasca. Mi segno un malapenny. Posso fare una prova di natura per analizzare la bestia che c'ho davanti e sfruttare questo bonus a cultura? Magari, Pjanic, sì, anch'io voglio fare un roll per capire sta pietra, ma credo che non sia nulla. Il bonus cultura per la pietra mi fai religione. Quanto fai di bonus? 14 ho fatto. Ottimo tiro. Io ho fatto 13 di natura. Un attimo, un altro ottimo tiro. Facciamo prima quello di Adone, che ha rollato prima. Vai. La pietra davanti a te sembra provenire da un altro mondo. Cioè, sembra qualcosa che non è stata fatta in questo mondo. Ok. E forte di una metafora che abbiamo usato in precedenza, questo è il cancello al quale manca una chiave per essere aperto. Ok. Va bene. Ciao Temo Fab, no, scherzo. Mentre invece sulla natura hai visto che erano delle ossa normalissime che a contatto con quella sostanza nera sono diventate d'acciaio. Non hai mai visto una metamorfosi del genere, è molto diversa dall'alchimia, anche se Nibel non ha mai conosciuto un alchimista, non ha mai visto l'alchimia, grazie ai suoi bonus a cultura sa che questo non c'entra nulla con l'alchimia. Sì. E quindi è proprio una forma, non sai nemmeno se chiamarla magia, però è una forma di trasformazione che non hai mai visto prima. Ma anche l'uccello proprio... L'uccello non l'hai visto nascere e ormai è esploso. È scoppiato okay. quando adolescente okay. reagito. Da quello che poi... ancora svenuto. Sì, no, è scoppiato. Da quello che hai capito, l'uccello era più simile al coniglio di Adone. Cioè, una creatura non proprio animale. Ok. Posso intuire che era tipo magia naturale, quindi invocazione di un famiglio o qualcosa del genere? In virtù del fatto che me l'hai chiesto esplicitamente, ti dico, non era proprio quello. Non era magia naturale. Cioè, era stato creato con dei okay. metodi non naturali, ma non era magia naturale. Perché la magia naturale ha un feedback che tu percepiresti e non ce l'aveva. Però la base, il concetto è quello, sì. È un simile di un famiglio, ok. In un altro mondo lo chiameresti Fey. Ok. Ok, Nibel si sgonfia. Il cervello di Nibel si sgonfia, sì. A caso. È rimasto qualcosa di pseudocelso a parte le ossa? Sì, vuoi fare un paio di D20? Oh mio Dio, ok, sì. Allora, tu ce n'hai D20? Uno e poi un altro a vostra scelta ne fa un altro perché ne abbiamo solo due. Ok, ne faccio uno io. 13, certo. Hai ottenuto, hai raccolto da terra una polvere nera. Ok. Sto pensando se esiste un motivo valido per cui tu sappia cos'è questa roba. Non credo, li puoi chiamare sali magici neri. Welcome back, sì. Cosa che io so cos'è. Non sai perché me lo dici. Ho fatto vabbè. Uno? No, ho fatto 13. 13. Okay, sì, sì, ottieni la stessa. Wow. Cosa, neanche io so cosa sono. Non trovo un motivo valido per cui tu lo sappia. Ok, ok, no, no, c'ha senso. Le ossa sono dello stesso materiale dello scettro? No. Okay. Le ossa sembrano di un acciaio molto raffinato. E ormai sono diventate una palla. Grazie alla magia di Cici, non per... Mi prende la palla, quanto pesante. Non è. Ce la fai a solleparla. Vedete Mif come il martello di Thor, che vedete no, che vabbè. Prova e fa... Oh! È una palla di... Esatto. È una bella palla. Ok, proprio fa... Nibel, tu ce la fai a tirarla su. Posso tanto provarci? Ci la beccherebbe. Dai, non possiamo portarcela dietro. Prova a sollevare la palla. Tra 2 secondi ti dico quanto pesa. Sì. 1,5 tonnellate. Aspetta che la peso e Bianic si pesa il cazzo. Scusate. La palla. È sempre registrato questa cosa. Sì, esatto. Sì. Per i posti. Esatto. Ti ricordi lo scheletro che avevamo trovato e ti sei portato dietro? Sì. Pesa quasi una volta e 8 quello scheletro, quindi quasi il doppio. Ok, quindi probabilmente... Lo puoi spostare, non ce la fai a sollevarlo. Sì, sì. Probabilmente con overpower riuscirei a spostarlo facendo rotolare magari, sì. Però... Possiamo rimetterlo nella sua tomba? Penso che l'abbiamo disturbato abbastanza. Sì, l'idea è quella. Ma se lo tirassimo a valle? C'è un fiume. Vito! Per quale motivo? Lascialo qua. for fucking fun, cioè tipo, ho rotto credo... cazzo fino adesso, è una palla e mi permettete di pisciargli sulla tomba. Non credo che la corrente sia abbastanza forte per portare una palla del genere. Lasciamo, lasciamola lì. Evitiamo mettiamola nella tomba, per favore. Cici dice, vi do una mano a spingerla o fate voi che siete esperti? No, riposati. Panare le tombe. E aiuto Nibel a spingere la palla. Spingo la palla. In due riuscite a farla muovere, però non è una roba facile, cioè è proprio è uno sforzo fisico importante. Riusciamo no? Non ho capito cosa hai detto. Riusciamo poi a coprirlo, cioè a farle... Sì. Sì, rimane cioè la terra che prima copriva Evenly ora copre not Evenly. No, scusami. Nibel scava un po' sotto, ha già fatto. Sì, scavando, già buttando per terra fa un buco per terra, quindi. Oddio. Con 2 tonnellate di ghiacciaio. Ci mette un paio d'ore tipo a ricoprire tutto, più col stesso tempo che ci ha messo per scavare, però si mette lì e fa il suo lavoro. Era stato più difficile scavare e vi ripeto, avete un po' perso la cognizione del tempo perché c'è la nebbia intorno a voi, non si vede benissimo l'orizzonte a causa del gigantesco mostro che copre il sole e in qualche modo sembra non essere ancora sera. Prego. Ho una domanda molto molto stupida, ma io avevo detto che con il cambio di outfit Adone aveva ottenuto un orologio da taschino. Posso guardare l'ora? Sono le 3 e 12 minuti. Possiamo fare che altrimenti non ce l'ho. Domanda. Sono le 3 e 12 minuti. Di pomeriggio? Sì. Sì. Ok. Vi faccio un paio di paragoni, visto che stiamo... Siete partiti dalla città alle 2. Ok. Oh, ancora indietro nel tempo. No, siamo tornati indietro nel tempo? Non so come sia possibile detto. Questa cosa, ma sembra che sia passata 1 ora e un quarto da quando siete partiti dalla città. Solo nel bosco a voi è sembrato che siano passate 2 ore. Solo a scavare a Nibel è sembrato fosse stata 1 ora. E ora a ricoprire la terra gli sembra sia passata 1 altra ora. In tutto questo l'orologio però dice un'ora e 12 minuti in più. Tocca l'orologio, dice magari segna l'ora sbagliata. Ci aveva avvisato la locandiera che c'era qualche cosa di strano in questa terra. Il fatto che la gente sembrasse ritornare alla base della montagna senza che sapere come. Forse questo è quello che intendeva. Non penso sia questo. Penso che questo sia un effetto collaterale di quello che troveremo andando avanti. Beh, forse. In questa zona più avanti sulla cima non ci dovrebbe essere un tempio di Arva, magari sta influenzando. A proposito, mi fa apre la mappa, si segna più o meno dove sono e segna tipo tomba di Pseudocelso. Perfetto. Chiude la mappa, la mette di nuovo in borsa. E in tutto questo Adone fa combattimento a parte, vogliamo elaborare sulle parole di Pseudocelso? Quali? Tutte, partiamo da quella più importante, credo. L'anima è quella che dà la magia agli uomini? E qualcuno ha inventato l'anima. Quanti erano? 1000 anni fa? Di più? Quanti anni erano secondo la leggenda? 4-5 mila. 5 mila, ok. 5 sì, mila. Sì, sì, sì. Cioè, lo vuoi segnare. Lui era fermo nel limbo. And I guess con l'aiuto di almeno un nadiro, che altrimenti non avrebbe senso il fatto che è uscito un nadiro dalla sua tomba di merda. Quella è la conseguenza del pilastro. No, sì, cioè l'essere gigantesco conseguenza del pilastro. Il nadiro mi sa di no. Nadiro è uscito fuori perché Pseudocelso non era più nel limbo, è stato liberato. E noi sappiamo... Chiede Cici. Il Nadiro era quello piccolo? Sì. Non sono persone i Nadiri. Sì. Sono persone che sanno, mangiano la magia. Sono carnivali. Sì, esatto. Assorbono l'energia, esatto. Ma di solito sono vestiti. Ma sono persone. Cioè, quella non era una persona, tutta la buona volontà. Sono d'accordo con te, Cici. Sembrava più quell'altro una persona. Tracci la linea di una persona. Yes. Ha due braccia e due gambe. Quello non aveva due gambe. L'uccello. Uno stambecco è Cici. Cioè, una persona è uguale. Non ha le braccia. Non ha le braccia. Ha quattro gambe. L'uccello era più simile ai conigli di Adone, in realtà. Ok, quindi in realtà il Nadiro era quell'altro. Sì, sì, dai, ha senso, insomma. Cioè, ricordandomi le bestie che c'erano in Nadiria, se è la stessa cosa, probabilmente si è trasformato in un Nadiro. Queste... Ci sono tante implicazioni in questa cosa, non ho voglia di denunciarle personalmente. Soprattutto quando quel coso ci ha detto che ha cercato di proteggersi dalla fine del mondo e tutti a quanto pare la vogliono comunque perseguire. Mentre loro ragionano, Nibel non ha più cultura per poterlo fare, va a vedere nella direzione dove è arrivato l'uccello. Per vedere se è stato chiamato da qualcuno al di fuori di questa zona. Vi siete non lì? Si allontana di troppo. È alla vostra destra. Però se sia nord, sud o est per te è un po' difficile da capirlo perché appunto avete un attimino perso il senso dell'orientamento. Comunque in quella direzione tu vedi le rocce a oltranza. Guardando un pochino, siete a fianco al fiume. Sul corso del fiume andate verso la montagna e nella direzione in cui c'era quella creatura lì ci sono i crepacci. Ok, quindi non è in direzione della cima della montagna. No. Ok. E non vedi nulla, cioè... ci sono pietre tutte uguali aperte ad occhio e poi la nebbia rende impossibile capire cosa ci sia. Ok. Nel momento in cui non ho risposte, allora torno indietro dagli altri. Beh, ci possiamo tenere il fiume comunque alla nostra sinistra e in base a quello sappiamo più o meno dove siamo sulla mappa. Quindi volendo dobbiamo proseguire per quella parte lì, cioè indica a livello bonario, insomma, dove potremmo andare. Mm-hmm. Siete d'accordo? Sì. Dolore di dormire. Quindi non riposiamo, l'idea era di riposarci qua, però se sono solo le tre, è un po' strano. Arriviamo un pochino, soprattutto allontaniamoci dalla tomba. Vediamo se troviamo la sorgente del fiume. Effettivamente la vostra stanchezza è più mentale che fisica. Cioè, fisicamente non siete stanchi. Però siete mentalmente provati dalla sequela di stronzate che avete visto. Ok, risalite il corso del fiume. Giusto? Sì. Arrivate infine alla sorgente del fiume. È praticamente una grotta dentro la quale non potete entrare perché è veramente molto fina, molto stretta, e l'acqua esce fuori come se fosse una fontana da sotto. Oltre a quel punto potete continuare però per un bel pezzo prima di raggiungere il picco della montagna. Assumo che continuate, visto che nessuno mi sta dicendo il contrario. Ne approfitto per bere dalla fonte. Sì, la io magari, mentre stiamo fermi un attimo lì, allora tira fuori la pietra, tira fuori il manapenny e dice vogliamo provare? Sembra essere scaduto l'effetto della roba di Lieto, della pallina che si è mangiato. Te la sei tolta all'inventario? No, l'avete dovuto togliere. Non mi tolgo la categoria perché ho intenzione di riprendere altri da Yumaru, quindi la lascio lì. Il Yumaru sta bene, se ve lo chiedo. Buonanotte. era con me. Ok, dico, proviamo col Manapenny? Io mi allontano. Mi allontano io. Adonis si allontana un pochino dal gruppo. Ok. Non era meglio la Void Coin? Posso? Ping! Mi dà una Void Coin? Oddio! No, è tanto per avere una canzone. Ah, ok. Certo, certo. Non c'è Maria, non c'è Maria. Arriva Maria. Cosa hai quindi la Void Coin? Cazzo, no. vabbè, dai. Non lo so, Aduni che ragionamento potrebbe fare? Cioè, cosa potrebbe ragionare su qual è la scelta migliore? Nadine non ce li hanno i Manapenny. Possono avere però i Void Coin. Considerato che si nutrono di magia, non penso proprio neanche abbia bisogno di allora, mettere il Manapenny semplicemente perché quelli ce ne abbiamo di più rispetto al Void Coin. Nonostante quindi sia un perfect fit, cioè sembra proprio sì, il suo, quando inserisci il Manapenny non succede nulla. Ok. Tiro fuori e inserisco. È quasi fastidioso il fatto che ci entri così perfettamente e non funzioni. Lo capovolgi. Inserisco il Void Coin. La mia teoria iniziale aveva senso, fanculo. Quando inserisci il Void Coin invece, come di nuovo un perfect fit, entra e le due parti, la chiave e il cancello, diventano una cosa sola. Diventa un unico cristallo bianco, semitrasparente, con un anello d'oro al centro. Immagino l'oro traslucido, cioè non è effettivamente okay, un anello dorato. E questo è un oggetto magico e monouso. E Adone, per motivi che non sai spiegare, dopo averlo fatto, sai esattamente cos'è e cosa fa. Perfetto. E ti mando la descrizione su Telegram. Cosa sì, che avrei potuto fare prendendo un vecchio messaggio. Lo sapevo. Insomma, che cos'è Adone, caro? Welcome back, Serfei. Ok, vedete che... Madonna. Passa un micro dietro, tipo stella cadente. No, Adone osserva un attimo una pietra. E poi si riavvicina a voi, gli fai la domanda e dice: è un oggetto magico. Vedi che se lo mette tra i propri averi e dice: può rimuovere delle magie che sono state messe su delle persone. Insomma, può rimuovere delle magie. Come si chiama? Puoi leggere il nome? Aspetta, mazza era la tipologia, vero? Sì. Ok, e Adone dice è un Onim Ray. Abbiamo mai sentito di una cosa simile? Dimmelo tu. No. Non ho mai visto o sentito parlare di una cosa simile, però... Adone sta mentendo. Vuoi rollare? Sì, tantissimo. Prego. Nel cagnolino un di 10 plus, no, non so niente, va bene così, rimango lì, cioè hai il dubbio, ho il dubbio, ma c'ho anche feature glimpse, non ti do esperienza se lo usi così, me ne frega un cazzo, non sono umana però, certo, cioè, non sono umana, no, e poi ecco di quel wow. Sai cosa? Le dico anche un asso. Adone sta dicendo la verità. Non ha mai sentito parlare di Onim Ray, per quanto se ne ricordi. Però i suoi ricordi potrebbero essere stati cancellati. Adone okay, invece sta mentendo spudoratamente. Sirio sta mentendo spudoratamente. No, allora, sì, però lui non sa di me. Adone è sincero nel dire che non se lo ricorda, però effettivamente una parte dei suoi ricordi sono stati cancellati, quindi se era lì dentro è in buona fede. Okay. Ok, va bene. E niente, poi, cioè, mi sembra onesto. Se due persone castano Future Glimpse per contrastarsi a vicenda, tipo infatti, si incontrano nel futuro e si riconoscono e poi tornano infatti, indietro. Ma che ci penso sempre scena, ogni volta che... È la scena di Sherlock Holmes di Downey Jr. quando incontra Moriarty, che giocano a scacchi e intanto pensano a come uccidersi a vicenda. Bellissimo, la scena dell'altro. Entrambi... Quando, secondo me quando Adone usa Future Glimpse c'è, cioè, di fianco Lieto, ci dovrebbe essere un momento di Lieto che fa qualcosa, lo guarda, non può interagire, però fa ridere. Da manuale dovrebbe essere Future Glimpse che tu vedi uno snapshot dei prossimi secondi, sì, se rimani perfettamente immobile. Sì. Vabbè, Adone dice è un oggetto magico. Ok, quindi serve a rimuovere magia, abbiamo detto. Sì. Di tutti i tipi. Sì. Sì, può rimuovere, diciamo, malus, maledizioni temporanee. Puoi curare Nibel, quindi. La sto dicendo in game, a meta se volete ve lo spiego, però non posso fare... Rimuove tutti i malus dei personaggi. Quindi puoi curare Nibel? No, non ha quel tipo di potere. Beh, hai detto maledizione. Del piano c'è una tavola incisa nella... No, ma non è vero, ma fanculo, non ci credo che la Blackstone mi toglie... Cioè, la Darkstone, scusami, mi toglie la maledizione del Pippo, Franco... Quindi non ci proviamo? Lo lasciamo il povero... Perché forse no. Non c'è bisogno, Glauco mi aveva detto che anche lui poteva farlo. Ah, ok. Quindi è una scelta tua tenertelo. Sì. Per ora... È solo che non ti ammazzi prima. Lo scopriremo durante il viaggio. Glauco è vicino, volendo. Per ora questo potere mi serve, sto abbastanza bene, diciamola così. Arriva Siro in game e dice, se vuoi un modo per sollevarti di morale. Go. Bravo. Sapevo sì. Papà, via. Niente, mi fa... vogliamo proseguire? Non lo so. Seguiamo. E vabbè, cattiamo l'acqua dalla fonte. Sì, esatto. Un bel po' di acqua dalla fonte. La sensazione aliena del luogo in cui vi trovate si acuisce, ma senza un chiaro perché. C'è qualcosa di misterioso e sconcertante che non riuscite a cogliere. C'è qualcosa di fuori posto. L'orizzonte davanti a voi è coperto dalla nebbia, dietro di voi è coperto dal colossale mostro marino. Non ci sono suoni se non quelli che vengono da voi. L'unico odore che arriva è quello che trasporta la nebbia. Forse petricore, forse pura umidità nei vostri polmoni. Un sasso fuori posto, di forma leggermente triangolare e smussata, con una riga di colore più chiaro che lo solca da parte a parte. Cici lo calcia via, facendogli fare un paio di suoni ovattati. Il mostro marino è sempre alle vostre spalle, una silhouette immobile che oscura il sole. Davanti a voi non vedete nulla di diverso dall'infinito cotone senza peso che riempie tutto lo spazio sopra e davanti. Ai vostri piedi il terreno è frastagliato, monotono e ripetitivo. Un sasso fuori posto, di forma leggermente triangolare e smussata, con una riga di colore più chiaro che lo solca da parte a parte. Cici lo calcia via e fa un paio di suoni ovattati. L'ambiente è tutto uguale, cominciate a chiedervi se vi siete persi, ma senza punti di riferimento non sapreste come controllare. Non ci sono alberi, non ci sono rocce, solo un'area di pietre frastagliate larga e in salita ripida. Un sasso fuori posto, di forma leggermente triangolare e smossata, con una riga di colore più chiaro che lo solca da parte a parte. Oh no. Cici lo calcia via e questo fa un paio di volte un rumore ovattato. Cazzo! Aspettate! Non l'ho già fatto! Sì, tre volte. Siamo già passati di qua? No. Sembrerebbe. No. Secondo me no. È qualcosa che si ripete. Magari non è la direzione giusta per come funzionano le cose. Proviamo un istante. Voi state fermi qua. E Lieto cammina in avanti. Esatto. Vedete Lieto camminare in avanti e poi fermarsi. Lieto? Cosa? Non c'è cosa? Nessuna risposta da parte di Lieto. Posso usare Every Talk? Puoi usare Every Talk. Parlo telepaticamente a Lieto. È difficile definirtelo in termini che può comprendere Adone. In termini che puoi comprendere tu, è come se il numero chiamato non fosse raggiungibile. Tu. Ho un'idea. Adone ti risponde? Non riesco a parlarci. Cici, sai castare Storm, giusto? Sì. Non è che con il vento riesci a ridirezionare la nebbia? E la risposta è no, nel senso che non funzionerà, allora è magica. E invece si sposta, significa che è effettivamente fisica. E devo scegliere una direzione in cui farlo, faccio... No, ma sai cos'è? Alto. Esatto. Cici congiunge le mani, le alza al cielo tipo sfera Genki-Dama, e una folata si alza... pulendo l'area dalla nebbia. Vedete molto più chiaramente i sassi intorno a voi e Lieto è ancora lì davanti immobile. Proviamo a raggiungere Lieto? Uno alla volta. E tipo... Vuoi andare tu, Madonna? Vado io. Ok. Vabbè, vado e cammino. Adone avanza verso Lieto e a un certo punto, prima di riuscire a toccarlo, vedete che si ferma. La polizia, no! Pianis, fra tutte le canzoni! Cos'è? Ma perché è stato usato dal brain rot per... La polizia! No. La polizia, no! No, la polizia, no! Dun, saluto! Per gli altri... che sono ancora con noi... quindi qual è il punto? Tirarli fuori da lì o... Chiaramente non ci si arriva. Prendo l'inventario, prendo una corda, la leggo tipo cappio... Cerco di lanciarla a... La tengo molto larga, cerco di lanciarla ad Adone per tipo raggiungere il busto. Quando la lanci si avvicina ad Adone, rimane ferma a mezz'aria prima di riuscire a toccare Adone. Oh, okay, ok, altra idea che ho. È magica. Io questa cosa la sento... Cioè, è di natura magica. Vuoi fare un roll? Sì. Prego. Arcano. 8 più 9. Dimmi il tipo di magia che tu conosci. Stregoneria, ontica, teurgia. Andiamo con ordine. Non trasmette emozioni di nessun tipo. Hai fatto un roll alto, no? Ho fatto 17. Sì, altissimo. Conosci anche ontica? Sì. Ciao. Non c'è un incantatore dal quale controllare se si tratta di ontica. Se è una magia, non c'è nessuno che la sta castando, oppure non è una magia. E l'altra che conosci è naturale? Teurgia. Potrebbe avere dell'attinenza con la magia sacra. Il punto è che in questo caso non hai la più pallida idea di come verificarlo. Nel senso che la teurgia è un tipo di magia che si fa studiando a tavolino le varie scuole. Sì. E non hai modo di percepire una per una le cose. Se invece è una forma di magia tipo quella degli Shunar, per capirci, lì sei del gatto perché non hai idea di cosa devi cercare. Mif si gira verso Nibel e Cici e fa... Ok, allora, mi ricorda vagamente le teurgie, però non sono abbastanza settorializzata su questa cosa qui e soprattutto mi è venuta un'altra idea. E se fosse invece qualcosa associato al tempo, abbiamo visto variazioni di tempo, Lieto può controllare il tempo. Magari il tempo si ferma e ricomincia, cioè andiamo leggermente indietro e poi ricominciamo e andiamo leggermente indietro. Quindi forse c'è una sorta di, non so, ostacolo davanti. Quindi, tanto vale che ci ricongiungiamo con gli altri? Sì, e poi proviamo ad andare indietro. Ok, ci si avvicina e vedete che guarda la corda mentre cammina, finché a un certo punto non rimane immobile. Vogliamo andare in Nibel? Non avevi un incantesimo per analizzare e le persone. La magia delle persone? Ma sì. L'incantesimo lì rivela anche quali sono le condizioni di quelle persone? Oppure soltanto le capacità che hanno? Solo il microcosmo, quindi solo le loro magie conosciute. Ok, quindi non hai magie per determinare da cosa sono affetti? No, no. E allora c'è poco che possiamo fare. Ok, no, ti dico già in più, se provi a castare horoscope su di loro, non riesci ad arrivarci. Sì, immaginavo. È lo stesso problema immaginavo. Ok. Mi unisco. Vado anch'io. Man mano che vi avvicinate, tutte le cose strane riprendono a funzionare, cioè la corda riesce a prendere Adone, Adone riesce a bussare sulla spalla di Lieto, Cici riesce a raggiungerli e voi riuscite a raggiungerli e vi ricongiungete. Ehi, dimmi! Tu con la corda in testa. Sì. Poi si sente la corda, cioè, immagino che non che mi sia fermato pure io. Sì. Sì. Però... fermato? Ho la percezione che siamo proseguiti oppure siamo ritornati indietro? Mi sembra di essere andati avanti. Sembra che siamo andati avanti, quindi forse è questo il trucco. Invece di andare tutti insieme, andare uno per volta? Sì, fila indiana tipo. Cici, tu non hai calciato un sasso di nuovo. Guardo per terra, vedo se c'è un sasso della stessa forma che ha calciato lei. Cici sta... è andata avanti, è in testa alla fila. E la vedi che ha la gamba leggermente indietro e davanti a lei c'è un sasso di forma leggermente triangolare smussata. Stavo per farlo. Ok, quindi non siamo forse andati tanto avanti. Lieto, ho ipotizzato che l'area in cui siamo, il tempo, viaggia in una maniera particolare. Tu puoi fare qualcosa? Questa è un'ottima domanda. Lieto si siede a gambe incrociate e prega. Dall'altro lato c'è un uomo molto vicino che ha in mano una scacchiera e la sta sbattendo con forza su un tavolo. Urlando come un ossesso. Che cosa urla? Solo... Ok. Tra l'altro, l'uomo l'avevo riconosciuto? No. Sembra Arva. Ah, è Arva, ok. No. Ma Arva è impegnato. Non ci può aiutare in questo momento. Neanche se lo chiami? No. Nel senso... prova, cioè, mi metto a pregare e prova a distrarre Arva mentre tipo smescia la... No, finché... L'unica cosa che vedi è che quella cazzo di scacchiera si rigenera ogni volta che la spacca. Ok. E no. Arva, non ci sarà d'aiuto in questa situazione. Se solo ci fosse un bel dio affascinante, carino. Oscar. Adone, ma tu non hai qualcuno con cui parlare ogni volta? Se stesso, intendi? Se stesso, che ha anche un altro nome. Lo fa spesso. Non credo di... Adone ci pensa un attimo e dice... Non credo di avere... qualcuno a cui chiedere aiuto per sta cosa. Avevi una voce in testa, tipo. Anche quella voce lì è affetta dal fermarsi del tempo. No. Non lo so, puoi dirgli tipo... se mi blocco svegliami o qualcosa del genere. Non credo funzioni così. Stiamo parlando di Rigel. Sì. Oh, però ho più pari idea di chi sia. Una delle anime che ho con me. Ne so quanto te di questa cosa. Grazie, Rigel. Proviamo una cosa. Prendo il sasso, tipo, lo lancio lontano. Il sasso si blocca. Cade normalmente. Lanciarmi Rinibel. Vuoi che ti lanci? No. Ah, non è sognato per una campagna intera di questa cosa. E finalmente... Ragioniamoci un attimo. No, la corda che ha lanciato Nibel si è bloccata a mezz'aria. Quindi prima di toccare a Dune. Prima di toccare. Esatto. Io gli porgo la corda. Funziona così e poi vado avanti tipo. E dopo un po' che cammini vedete che Nibel si blocca. Io avrei un'idea in realtà, però cioè, ci sono degli altri sassi per terra, sì. Oltre a quello che ha ok, ce n'è uno riconoscibile, quello forma. È il più riconoscibile di tutti. Quello è il più riconoscibile di tutti. Ok, allora resettiamo se possibile. Vorrei prendere quel sasso e tenerlo. Proviamo, okay. Raggiungiamo Nibel a sto punto. Hai il sasso in mano e continuate a camminare. Cici si guarda intorno. Stavolta non c'è nessun sasso per terra. Ce l'ho qua in mano? Sì. Ok. Ok. Quindi le cose che facciamo adesso... Sì, sì. Le cose che facciamo prima influenzano il dopo. Quindi... Dunque, l'ambiente non è influenzato da quello che succede, ma noi sì. Cioè, forse... il sasso rimane essere un sasso in qualunque contesto, ma siamo noi che continuiamo a tornare da lui. Fammi vedere il sasso un attimo. Gli do un'occhiata. Visto che sono, non so, sì, esperto sì, di sì. Minerali, gli do un'occhiata per vedere non che com'è. Non sono così ferrato da dirti i dettagli delle rocce, ma è un sasso estremamente normale, cioè è proprio il tipo di sasso che ti aspetti di trovare su questo tipo di montagna. La montagna okay. Non è di origine vulcanica, il sasso non è di origine vulcanica, ha una formazione con due o tre strati e quindi per quello c'ha una riga in mezzo, è una pietra normalissima. Sì, sì, sì. Quindi non ha tipo, cioè, non è tanto il minerale di per sé, ma è più, non ha la tarite dentro. No, non, è un sasso normale, sì, sì, sì, è proprio un... Ho un'idea. Avete presente... Mario 64. Sì, yeah. Sì, sì. Le scale che portano a Bowser e il glitch che c'era per poterci andare prima del tutto. Che Nightmare. Come vorresti farlo per capire? Ogni volta che penso a quella roba lì mi viene in mente l'animazione dove flappa il culo e c'ha le palle che ballonzano in mezzo. Sì. Che animazione hai visto? Poi te la farò vedere. Non lo so, piuttosto che andare dritta va al contrario, cioè vedete che non vi dice niente, si gira. E dopo un po' la vedete che si ferma. Almeno è stato divertente. Tanto c'è la nebbia, quando vedete che si ferma, poi vedete un outline, non vedete la persona. Ok, e... Vogliamo... Lieto vorrebbe fare tipo una pila con i sassi che sono per terra. Okay. E tenersi il sasso in mano, cioè tenere con noi il sasso che calciava prima. Ok. Prova a lanciare il sasso a Mir. Anche. No, non lo facciamo. Proviamo ad avvicinare uno di noi col sasso in mano verso Mir. E ditemi chi lo fa. E ce la va Nibel il sasso, vai tu. L'avevi preso tu. Però se infatti vuoi l'ha preso... Ah, perché te l'avevo dato per guardarlo. Quindi ah, tipo... giusto. Vabbè, vado io allora. Mi avvicino a Mif con la... Prima di raggiungere Mif, vedete che Nibel si ferma. Ok. Abbiamo provato a tornare indietro? Non ancora. C'è... Raggiungiamo loro e poi proviamo a tornare indietro a questo punto. Quando li raggiungete, siete tutti insieme, volete proseguire o volete tornare indietro? Tornare indietro. Però cioè, la gente è riuscita a tornare indietro. Quando tornate indietro, dopo pochissimi passi, vedete fuori dalla nebbia la sorgente dell'acqua. Voi avete camminato per un sacco di tempo in avanti. Che ore sono? Adone. 3:15. 3:15. 3 minuti sono passati. Io direi di ritornare nuovamente dentro. Hai un'idea? Hai se qualcosa? Non altro volevo vedere. Avevo fatto la pila di sassi, voglio vedere se è ancora lì, per esempio. Okay. Vai. Quando vi avvicinate, la pila di sassi è sparita e i sassi sono sparsi per terra nelle posizioni originali in cui erano. Ok. Però il sasso ce l'ho sempre con me, quello. Sì, ovviamente non era parte della pila quello. Ok, lo lascio nella fonte. Lo metto nella fonte dell'acqua. Sì. Lo lascio lì. Quando ritornate là, Cici non calcia più nessun sasso, non c'è più quel sasso. Ok. Non credo che faccia parte del... No. Del mistero, allora, quel sasso. No. A meno cambiare che... Cambiare direzione? Però se ogni caso? Volta... Sì. Andiamo a destra. E tipo Mif fa un solco fortissimo sul terreno. Cioè, non tipo... riesce a scavare. A segnare... Il terreno è roccia. E allora facciamo una pila di rocce di dove siamo. Cioè, per non perderci. Mif non ha magia naturale nel... No. Nel suo repertoire, vero? Quindi nessuno ha ancora fatto una prova con magia naturale. Ah, e può farla domani, volendo. Dai, io Adone. Dai, facciamo io. Vai, falla tu. 1, guardalo. Guardalo. Quanto ha fatto? 6 più? Investigare. No, arcana. Ok, 8 più 6 ho fatto 14. Non c'è nulla di naturale né di legato agli elementi in quest'area, se c'è una magia. Hai altre conoscenze magiche tu? Teurgia e stregoneria. Stregoneria, posso dirti senza timore di iperbole, che non trasmette emozioni di nessun tipo. Teurgia? Il vibe, molto alla lontana, Okay. È simile a Licore di Dio. Ah. Le vibrazioni sono simili. Contro però Licore di Dio, Licore di Dio no. È infatti quello che mi confonde. Ok, Adone dice... Figlia, la magia che uso io col mio sangue, ma non è una stregoneria. È più una teurgia. Anche a me aveva dato la sensazione di una teurgia. Cioè, è qualcosa dovuto da qualcosa, ok? Che varia questo ambiente. Questa nebbia sicuramente non aiuta. Cici, quante volte puoi fare storma? Vorrei non finire esausta, ma ancora 4-5 volte prima che sia troppo stanca per continuare a la camminare. La puoi buttare in avanti? Sì. Magari fa qualcosa. Crea un turbine che pulisce l'area, rivelando che più avanti, poco più avanti, sembra esserci un percorso. Però questa cosa dura pochi secondi, finché la nebbia si ricopre, cioè se ritorna al suo posto. Proviamo ad andare avanti verso di lì. Sicuramente si resetta l'area, quindi o nel momento in cui casta Storm, però dopo Cici rimarrebbe trappolata, cioè proviamo ad andare avanti intanto, abbiamo visto un percorso. Camminate nella nebbia e dopo, a voi sembra sia passati 5-6 minuti, non raggiungete ancora il percorso. We clearly went back. Ora non avete più il punto di riferimento del sasso strano. Infatti. Gli altri sassi mi sembrano tutti uguali. Adone fa una pila di sassi per avere almeno una... Insomma... Okay. Secondo me è la nebbia. È la nebbia il problema. Sì? Perché chiaramente c'è qualcosa, quindi ci dobbiamo liberare di questa nebbia. Adone non sente la nebbia come l'origine del problema, altrimenti la identificherebbe come magia naturale. Deve essere qualcos'altro, fulcro. But hear me out. Se scavassimo un bel tunnel, ci metteremo un sacco di tempo. Ti do una mano. Vabbè. Litogenesi. Voglio provare ad attraversare la nebbia trattenendo il respiro. Vedete Nibel che va avanti e dopo un po' si ferma. Raggiungiamo Nibel, per favore. Ti raggiungono e ci dice, puoi respirare ora. Ha funzionato? No. Ok. Bianic, percepisco, oltre, cioè, in mezzo alla nebbia, percepisco qualcosa? No. La presenza di un'anima, di una presenza, qualcosa. No. È un'illusione. Cioè, mi fa le illusioni, ok? Quindi la riconosce come un'illusione. Non sapresti cosa cercare. Pensa davanti a te adesso si materializza un bel tempio, quello che vuoi vedere, quello a cui vuoi arrivare. Aspetta. Vai. Chiedo a Cici se può nuovamente spostare la nebbia per farci vedere il percorso che avevamo visto prima. Ok. Qual è il tuo piano? Poi, esatto. Il piano è di chiudere gli occhi e cioè, allinearsi con dove andare, chiudere gli occhi e andare dritto. Take. Deciso possibile. Leghiamoci prima. Aspetta, Cici. Leghiamoci. Vero. Così uno punta dritto. Facciamo la cordata tipo i bambini. La corda dei Nibel, esatto. Uno. Vado? Andiamo. Vai. Sei la prima. Vai. Crea un altro gust of wind e inizia a seguire il percorso e dopo poche camminate mi sembra di non aver fatto progressi perché siete sempre nella nebbia da 5 minuti. La mia prima vista sì, l'avevamo rivista. No. So we made progress. Ci sono un sacco di sassi sparsi per terra. Le pietre che erano intorno alla tomba di Paracelso interagivano solamente con la magia quando venivano lanciate o annullavano anche magie esistenti? Vuoi prendere il pilastro? Sì. Magari evitiamo di prendere l'effigie. Cioè, il suo epito. Aspetta però. Se camminiamo indietro torniamo a una fonte, vero? Sì. Ci abbiamo bevuto dalla fonte? Sì, non tutti. La tue Adone no. Cici no. Ok. Adone dice... Potrei provare a vedere se il mio coniglio ha lo stesso effetto, ma... Penso che sarà... C'è uno spreco di tempo, penso che sarà la solita cosa. Tu puoi avere solo conigli come famiglie, puoi cambiare purtroppo forma. Sì. No, non può cambiare forma. Lieto torna... Lieto vuole... Cioè, torna indietro. Cioè, lasciandoli lì. Ok. E ora andiamo alla sezione di Lieto. In cui ritorni alla fonte sì. E davanti a te vedi la nebbia. Ok. E mi avvicino, cioè, è una fonte d'acqua. Mi descrivi la fonte? Praticamente c'è la montagna che sale e a un certo punto c'è un cliff in basso al quale c'è una fessura larga un metro e mezzo circa dal quale esce l'acqua. Ok, mi avvicino all'acqua e voglio vedere se c'è qualcosa di magico. L'acqua se ha qualcosa. È normalissimo, non ti faccio rollare perché acqua è normalissima. Ok. Anche la fonte, le pietre che circondano, tutto non quanto. Non c'è nessuna traccia di magia. Ok. Vabbè. E se pregassimo gli Eros? Sei... Vabbè. Non in scena, mi spiace. Che lieto non vuole tornare, mi sa che rimaniamo qua. Va bene, rientro. Per voi nella è passato un istante, cioè lieto ha detto io torno indietro e è ritornato, è lì. Io torno già indietro. Adone, potrei avere il tuo orologio per piacere? Glielo passo. Prendo l'orologio, esco di nuovo. E vorrei rimanere seduto per un minuto a guardare l'orologio. Ok. Lo fai. Ok. Rientro dentro. Quindi dovrebbe segnare almeno le 17. Almeno le 17. Segna le 15. Appena rientro? Sì. No, cioè è lento, e man mano che rientri è come se le lancette si riavvolgessero. Ah, ok, tornassero indietro letteralmente. Sì, sì, sì. Ok, condivido questa cosa con il mio gruppo. E... non mi sembra normale. E fin qua, Cici. Grazie, grazie alla ragazza, cazzo, dico a Cici. E... sì, è decisamente... stiamo scendendo nel pozzo del tempo. Stupida zanzara. Bianic, vabbè, la mia faccia. Sì, è bellissima. Io... no, però fagli uno screen. Mamma mia, sta cazzo di zanzara. Non conosce qualche... Adone, non conosce qualche... leggenda, qualche magia, qualche scherzo universitario di questo genere? Mi piacerebbe dirti di sì, ma questa roba è beyond fucked up. È proprio una... non l'hai mai sentito parlare. Di magia del tempo poi è proprio... è un mezzo tabù in università. Ricordati, qual è la magia più potente di tutte? L'amicizia. No, la cronomanzia. Il tuo coniglio può volare? Oggettivamente no, cioè c'ha le ali ma non può volare. Può planare, può, non lo so, rallentare la propria caduta? Sì, ma non... come cioè, una gallina. Vorrei... cioè non vorrei mandarlo a suicidarsi. What if we die? Non voglio scoprirlo! Sì, non abbiamo la magia per resuscitare, quindi è meglio evitare. Non credo di volermi affidare dei tuoi poteri di rewind, lieto. Il tuo cosa? Il tuo potere del tempo, lieto. Voi avete il potere del tempo? Sì. No. Noi due. Io sono meglio di lui. Riesco a vedere 10 secondi nel futuro. Io riesco a fare qualcosina di più, ma non... non molto. Ma se il futuro qui è ciclico, cosa vedi con... infatti, c'ho... sì. Verità. Vuoi provare tu, lieto? Faccio io. Yes. E... quante volte vuoi farlo? Tutte quelle che posso fare senza morire. Arriviamo a 3. Va bene? Ok, che sì. Che sì. Va bene, sì, cioè, nel senso... usi 3 volte Future Glimpse. Okay. La prima volta vedi... mi sembra 12 secondi nel futuro, una roba del genere, poco, non so se hai scritto il tempo in... no, non l'hai scritto, no, qua scritto. Comunque vedi una manciata di secondi nel futuro e nel tuo futuro ci sei tu che vai a sbattere contro un muro invisibile. Ma questo ti permette di usare di nuovo Future Glimpse per vedere cosa sarebbe successo se tu non l'avessi fatto e saresti andato a sbattere contro un secondo muro invisibile dietro il primo. Okay. E se lo fai una terza volta vai a sbattere contro l'ultimo dei muri invisibili, oltre al quale c'è un percorso. Guarda la tua scheda. Guardo la mia scheda e posso usare... speed up. speed up per cioè sì, vabbè, posso ripetere anche le azioni. Quindi posso scegliere accelerare, credo. Sì, vabbè, sì. Cioè, però la mia azione extra per turno è una magia. Stare la prima parte. I go fast. Vuoi andare fast? I wanna go very fast. Vedete Lieto che in qualche modo deforma il tempo e esce fuori dalla nebbia. Tu dall'altro lato, infatti, sei su un percorso che poco più avanti porta a un tempio e dietro di te ci sono i tuoi amici che sono, per qualche motivo che non capisci, alle prese con dei muri che tu vedi chiaramente. Ok, loro continuano a sbattere sul solito muro. Sì. E ogni volta okay. Tornano indietro. Giustamente. Io sono perso. Lancio icone di Dio dritto dritto davanti a me. Perché non era una cattiva idea. Ma sai cosa? No. Tocca Lieto per il momento. Ah, scusa. I muri, cioè, sono muri invisibili, hai detto. Sembrano fatti di vetro. Sembrano delle pareti di vetro. Ok, tipo traslucide. Sì. Cioè, li vedo attraverso. Sì. Ok, e Lieto spara alla parete più vicina. Al mio lato. Mi sembra corretto. E crei una breccia che annulla temporaneamente la cosa. Tu riesci a vedere che il vetro si sta rigenerando. Sì, e voi okay. Siete liberati da questa course del tempo e potete muovervi liberamente. Corriamo verso Lieto, immagino. Corriamo in direzione di Lieto, sì. Andiamo. C'erano tre modi per riuscire da questa cosa, avete scelto quello del dio del tempo, bravi. Due punti esperienza a Lieto. Davvero? Yeah. Sì. E uno per le punti esperienza... Sì, te lo do una volta sola, ma te lo do a teurgia. Teurgia, ok. Siete fuori e tra un attimo quanto siete stanchi? Sì, molto, scusami. Ok, no, perché sì, no, abbastanza in realtà. Col cliffhanger. Cliffhanger richiedono un paio di minuti. Non è che abbiamo dormito adesso, un conto è andiamo avanti 5 minuti, un conto è andiamo avanti 2 ore, vero Elia? Anche fino a mezzanotte. L'unico santuario... Devo resettare la cosa, datemi un attimo, perché la playlist era fatta per partire adesso. Cioè, per ripartire adesso. L'unico santuario cubico di marmo bianco ad Esboson è totalmente diverso dagli altri che avete già visto. La pietra bianca è contornata da una miriade di apparecchiature meccaniche in movimento dalle funzionalità incomprensibili. Le incisioni sulla facciata, i piccoli glifi geometrici che avete incontrato già altrove, sono a malapena visibili dietro alla fitta rete di ingranaggi, assi e dischi di bronzo. Una manciata di persone circondano la struttura, indossano abiti bianchi cuciti a mano, portano capelli corti e sono molto magri. Alcuni stanno lavorando i campi con degli utensili di bronzo, altri sono seduti a gambe incrociate con le mani congiunte e gli occhi chiusi. La brezza serale muove ritmicamente i loro vestiti. Ma il sole non sembra ancora tramontare. Le persone non nascondono la loro natura. Se provate a parlarci, almeno. Salve! Uno di loro. Chi siete voi? Tra il primo. Sì. Noi siamo i Timekeepers. Il fatto che... siete giunti qua significa che avete qualche connessione col tempo. Sono l'avatar di Arva. Il primo che vedo nella mia vita, ma non il primo a visitare questo luogo. Come possiamo aiutarvi? Stavamo cercando una persona, in realtà, e tipo Nif si gira verso Dibel. Liber. Scusate. Chi stavi cercando? Stavo cercando un mio conoscente. Si chiama Adelfo. Avete sentito parlare? Uno dei nostri membri aveva quel nome prima di unirsi alla nostra setta. E ti pareva. Qual è il vostro... lo scopo della vostra setta? Noi siamo i timekeepers, il nostro scopo è segnare il tempo. Registriamo tutte le anomalie temporali e tutti i momenti in cui il tempo non scorre correttamente. Probabilmente oggi ci darete dell'altro lavoro, perché non è normale che così tante persone vengano a visitarci. Giusto per essere chiari, stiamo parlando dello stesso Adelfo, no? Scliseto di cognome. Noi non usiamo nomi e cognomi. Dalla nostra esperienza portano solo problemi. E per caso si è presentato qua da voi con una decina di mana unit? È possibile. Noi evitiamo tutti i beni materiali. Anche questi creano più problemi di quelli che risolvono. Come potete vedere, e indica i campi coltivati, viviamo dei frutti del nostro lavoro. Non mi sembra esattamente la vita che vorrebbe fare quell'uomo. A meno che non abbia girato. Oh no. No. Os, sei? Che è successo? Hai laggato. Ho pingato Discord come al solito. Sì, sì. Ho detto, non mi sembra necessariamente il tipo di stile di vita che farebbe Adelfo, a meno che non ha girato i tacchi e ha deciso di cambiare stile di vita. Molti vengono qua perché la loro vita precedente è insopportabile. Su quello posso crederci, non si è lamentato più di una volta di quello che stava passando alla centrale, però questo non l'ha mai fatto cambiare nel suo comportamento. E questo luogo è al di fuori del tempo? No, abbiamo solo una protezione che evita agli intrusi di arrivare qua. Vengono chiusi in un loop temporale e se ne vanno quando decidono di rinunciare. Solo sì, abbiamo notato. Solo chi ha un forte legame col tempo riesce a superarlo. Ditemi, come avete fatto? Gli ho sparato. Le armi da fuoco non funzionano se non hai già una forma di legame. Avatar. Diav plus pistola. È giusto. Thingy, depend, yes. Giusto e... per essere chiari, non abbiamo intenzione di fare danni o recarvi problemi. Stiamo soltanto cercando quella persona. Il nostro tempio è a prova di qualunque cosa. E abbiamo anche la benedizione del Magisteristi. Ecco, quello vorremmo evitarlo di incontrarlo. Ma chi se viene da queste parti? Raramente. Adesso non c'è, vero? Lo state aspettando? È una donna al Magisteristi e no, al momento non dovremmo ricevere sue visite. Che maschera ha? Non credo sia rilevante. Sì, per me lo è. Il Magisteristi maschera. Cambia maschera quando cambia la persona che la porta. Ho una domanda migliore. Come mai siete supportati da un Magister? Nel senso, siamo ben lontani dall'impero. Lei ha un interesse personale per preservare il nostro mondo ed evitare che le anomalie lo portino alla distruzione completa. Biff, guarda Adone. Adone guarda dritta la persona che sta parlando. Sta parlando di te. Lo dici in game? Se ci fosse intanto un problema, sono sicuro che la Magister si sarebbe già mossa al riguardo, ma sono ancora qua. E quante anomalie sono verificate nell'ultimo periodo? Numerose. Noi teniamo dei registri con tutte le anomalie, se volete ve li posso mostrare. Volentieri. Fantastico. Se tra l'altro cosa... come si identifica una, cioè cos'è un'anomalia? Abbiamo un sistema che riesce a rilevare i momenti in cui il tempo non scorre come dovrebbe. In quei casi si manifesta un'anomalia e mandiamo uno dei nostri osservatori a controllare cosa è successo e teniamo traccia. Speriamo che un giorno i nostri registri servano a qualcosa. alla Magister sono serviti già in precedenza. Il tuo nome invece? Noi non usiamo i nomi. Come vi definite? Siamo tutti fratelli. Certo. Beh, la stessa cosa non vale per noi, quindi vi serve sapere il nostro nome? Non ci riferiremmo a voi. Alcune anomalie creano problemi se si usano i nomi, per cui preferiamo evitare. Chiaro, meglio così. Promezia. Non lo dice Adore. Vi posso far fare un giro all'interno. Alcuni dei nostri fratelli sono in preghiera, quindi vi chiederei di non parlare a voce alta e non disturbarli. Sarà fatto. Nel frattempo mi avvicino ad Adore e dico: l'orologio? Cosa dice? Tiro fuori l'orologio. A ticchettare normalmente. Sono sempre le tre, però non sono tipo schizzate di tre ore. No, no. Ok. Qualche minuto è andato avanti, in effetti. Però non di un'ora. Vi porta all'interno. È spoglio, ma tenuto in ordine perfetto. Anche le pareti interne sono piene di meccanismi in bronzo in eterno movimento. Anche questo è apparentemente inutile ai vostri occhi. C'è solo una sezione chiusa da una grossa porta metallica a forma di quadrato perfetto, contornata da innumerevoli ingranaggi. Sembra stordi, spessa e indistruttibile. Ai lati di questa porta due corridoi ad angolo retto, quindi fanno... coi lati completamente coperti da mobili riempiti fino all'orlo di libri e pergamene. Il vostro cicerone ve ne mostra alcuni in ordine sparso, cronologico, nel senso che li prende man mano che ci passate avanti. Questo è uno dei primi registri, risale a quando abbiamo fondato il culto. Racconta della scomparsa misteriosa del figlio di Sefin Leusin. Poi qua abbiamo la comparsa e la sparizione dell'uomo dalle ali nere, che era accompagnato da vari avatar che stranamente erano al suo servizio. Qua abbiamo la comparsa e la sparizione dell'alchimista del sangue, che si dice viaggiasse armato di una scopa. Poi questa è la distorsione dell'arancio di Nea nei territori berber. Poi la morte inspiegabile del terrorista Mao nella Nadiria, che ha minato la loro esistenza e minacciato di cancellarli dal mondo. Poi abbiamo il recentissimo deragliamento del treno che collega Lumiera ed Oclica, senza nessun morto e ferito. E ci sono stati morti, solo che non sono registrati. Abbiamo mandato un osservatore e non ha trovato nessun morto. Certo, c'ero io in quel treno, so cosa è successo. Hai vissuto un'anomalia? Sì, il tempo si è riavvolto poi. È un fenomeno comune. I nostri strumenti l'avevano registrato. È strano che tu mantenga memoria di questo fatto. Ma dopotutto, se sei arrivata qua, hai sicuramente un collegamento con le divinità del tempo. Proseguiamo? Ci dovrebbe essere un evento subito successivo a quello del treno. Questo è l'ultimo record che abbiamo registrato. È l'apparizione del Signore delle Fiamme nella Solveria meridionale, profetizzata indipendentemente dai popoli Shunara e Berber migliaia di anni fa. Avevi un evento diverso? Sì. Ovvero? Vedo le facce confuse del mio party, ma dovrebbe esserci arrivati anche loro in realtà. Dovrebbe esserci un altro evento in mezzo a... Cronos. È vero, Cronos. È vero. Affascinante. Cronos era un avatar di Arva di innumerevoli millenni fa. Lo abbiamo liberato. La ricomparsa non è un'anomalia temporale. Noi abbiamo vissuto più tempo di quanto non abbiamo veramente vissuto. Esatto. E immaginati una cosa del treno ripetuta tre volte. Mi è chiaro. Per i nostri strumenti era tutto corretto. Corretto. Qualunque cosa abbiate vissuto era il corretto scorrere del tempo. Non era un'anomalia. Quindi... Guarda lì e fa... chi lo spiega. Eravamo predestinati. Era dato che questo succedesse. Sembra la parola. Quindi, fammi capire, Cronos ci ha detto che quello che avremmo fatto ci avrebbe portato a praticamente morire tutti. Sì. Ci ha suggerito... Due di noi morti e... Tutti in realtà. Tutti. Tutti in un modo o nell'altro. Tutti dietro. Tutti dietro. E ci ha suggerito di comportarci in maniera diversa sostanzialmente. Quindi se noi dovessimo seguire il consiglio di Cronos... Dobbiamo andare via da Respoda. Noi diventeremmo un'anomalia? Non credo funzioni così. Vedete, se qualcosa proviene dal nostro mondo, raramente è un'anomalia. È quando qualcosa proviene da fuori che diventa anomalo. Cronos, nello specifico, è una pedina nelle mani del dio del tempo. È stato modificato come avatar e è diventato un semplice pedone. Avete i record del 1619-20? Sì. Qualcosa in particolare? Yes. E qualcosa riguardo a una buccia. Sì, deve essere un frammento dell'arancio di Neanea che è ricomparso proprio in mano al Magisteristi. Quella sì che è un'anomalia. Il Magister ci ha detto che avrebbe fatto del suo meglio per contenerla, anche se al momento non era in grado di cancellarla. Ok, grazie. Adone, aspetta, vuole chiedere una cosa? Aspetta che vorrei dire l'anno esatto, ma Adone chiede appunto... C'è qualcosa invece nel 1591? No, scusami, 91, 94, 95, nel 1595. In effetti esistono dei record per l'epoca in a nord dell'impero. Mm-hmm. Sembrerebbe che ci sia stata un'anomalia nella manifestazione di qualcosa che non dovrebbe essere in questo mondo. Qualcosa tipo? Tipo, non abbiamo un termine per definirlo, ma abbiamo un veggente tra le nostre fila che, conoscendo il futuro, sa che tra qualche anno li chiameranno santi. Oh. Santi? Sì, la nascita di un santo. Ok, tu allora le anomalie vengono da fuori, quindi sono Mif sta pensando al libro blu in questo momento, a Franzica. Il libro blu però... No, da chi è dato? Da chi è dato? Perché la persona che te lo dà non esiste. C'è il record, infatti. Stai parlando dell'apparizione del polpo delle biblioteche. Forse lo conosci come l'uomo che ride? Sì. Il nostro culto si occupa di arginarlo, credo sia il termine corretto. Quanto sapete di questa cosa? Probabilmente nessuno al mondo ne sa più di noi, ma non credo sia un particolare traguardo. Crediamo che si tratti di qualcosa che viene da fuori dal mondo, tant'è che la sua presenza viene rilevata solo dal nostro sistema che rileva le anomalie e da nient'altro. E come unico scopo sembrerebbe avere... vuole portare l'Apocalisse, diciamo. Anche se nella sua ottica il concetto di Apocalisse differisce dal nostro. Non è una violenta fine del genere umano. Qualcosa di più contorto e maligno. Sapete che cos'è? Non credo sia possibile definirlo. Però l'hai definito maligno. Cosa intendi con maligno? Nel senso che qualunque sia il suo scopo, va contro quelle che siano gli obiettivi di qualunque essere umano. però questa è una vostra assunzione, non c'è una prova di questa cosa. Qualcosa come la piaga bronzea, una prigionia eterna. Anche quella sembra essere una anomalia. Viene da fuori anche quella. Sembrerebbe. Di che origine? Sapete anche capire di che origine è? Sembrerebbe venire dal futuro. La convinzione che si tratti di una malattia è erronea. Non abbiamo nella terminologia negli strumenti per definirla, ma è qualcosa che nel futuro sarà abbastanza normale a quanto pare. Un'evoluzione? Glorious evolution! Scusa. Madonna beata. Non abbiamo né la terminologia né gli strumenti per definirla. Capisco. Forse il passo successivo a macchine come quelle del, non lo so, per il cambio di genere, per la cura, queste cose qua. Ah, dice una conseguenza. Ok, ha senso. No, più che una conseguenza è tipo, perché curare il corpo quando puoi meccanizzarlo direttamente, renderlo immortale, immune alle malattie, sì, immune alla fatica. Però quell'altro ci ha detto che era un'agonia. Sì, quella penso sia una conseguenza del processo. Come si fa ad arginare l'uomo che ride se viene da fuori, tappare la porta da cui viene? Nell'antichità i primi timekeepers cercavano sistemi per contenerli, sigillarli ed eliminarli. Col tempo ci siamo accorti che era come cercare di fermare il mare. Non si può fare. Bisogna imparare a conviverci e al limite rintanarci sulle montagne per evitare le onde. Perché si esce fuori di testa quando lo si vede più di qualche volta? Rivela i segreti dell'universo. E a quanto pare la mente umana non è fatta per comprenderli. È come cercare di riempire una scatola con molti più fluidi di quelli che può contenere. Alla fine esplode. Ha senso. Ha senso. E poi si gira verso Lito e Adone e fa, vedete, non c'è da fidarsi di quel tizio. Tra l'altro ha ammazzato ora. Non ci eravamo affidati. Non ci risulta che abbia mai ucciso qualcuno. Cioè, che non si è ammazzato, l'uomo che ride. Ora si è suicidata. Cioè, si è suicidata, esatto. Dopo che ha scelto di suicidarsi perché ha avuto una visione del futuro, del suo futuro. È vero, no. Effettivamente. Cioè, è stata indotta al suicidio non perché... Per i segreti dell'universo. Letteralmente. Sì, però non è esplosa. Semplicemente no. È tipo... No. Lei ha detto se dovesse rimanere in vita avrebbe causato la fine del mondo. Mi sembra ben diversa come conseguenza. Era una scelta che ha fatto lei, non era una cosa che gli è capitata. No, certo, non sto discutendo. Mentre state discutendo, un uomo, dietro il vostro interlocutore, che infila un record, non è l'ultimo, è un penultimo, l'ho ricopiato, riaggiustato. E ve lo descrivo come un uomo sulla cinquantina, per tre di voi è l'ennesimo monaco smunto vestito di bianco, coi capelli corti e brizzolati, ma per uno di voi è lo spettro dell'uomo che era, metà del suo peso originale, l'arroganza completamente sparita al suo volto, gli abiti neri ed eleganti sostituiti da una toga sacra e illibata, né barba né baffi, solo un volto emaciato che nasconde male le 10.000 sventure che ha portato a tutti quelli che ha conosciuto. È invecchiato, è cambiato, è dimagrito ed è peggiorato, ma quello è indubitabilmente Adelfo. Io lo fisso nel caso che ci stia parlando adesso, non stiamo continuando il discorso, non sto ascoltando in questo momento. E loro stanno continuando a parlare invece. L'uomo, dopo aver poggiato, si accorge che uno dei suoi fratelli sta conversando, che è una cosa strana, per cui si gira, alza lo sguardo, ti fissa, è come se avesse visto uno spettro, e sussurra: come mi hai trovato? E la finiamo qua la sessione? Ci sta. Ci stava il cliffhanger, scusate. No, no, no.